si ama, si riposa, si ascolta il silenzio. Di notte il tempo si dilata, la magia ci avvolge e le anime vagano nei pensieri. La notte è il momento delle confidenze, della resa dei conti. Ma per noi di Runtime Radio, un venerdì sì e uno no è anche l'occasione per un talk show tutto speciale, dove gli argomenti vagano per conto loro. Runtime by Night, il talk show notturno di Runtime, il primo e il terzo venerdì del mese alle ore 23 su runtimeradio.it. Segui il canale Telegram di Runtime per essere sicuro di non perderti le dirette. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, subito dopo le 21.30, anche se leggermente in ritardo, torniamo con un episodio speciale, particolare, che abbiamo annunciato tempo fa con calma, ma soprattutto con tanto amore, perché insomma era lì che stava, insomma, faceva capocella, lo facciamo, sì, non lo facciamo, ma dobbiamo essere pronti. E non solo, c'è bisogno anche delle persone giuste per fare, insomma, una puntata come questa. E torniamo, appunto, come abbiamo detto la scorsa puntata, con l'episodio interamente dedicato a Spazio 1999, che è una serie televisiva che noi abbiamo visto. Qualcuno mi ha distrutto le orecchie, ma va bene, non c'è problema, ragazzi. Allora, con chi siamo questa sera? Siamo, con i soliti, quindi Carlo Sant'Agostino, ciao Carlo. Ciao, buonasera a tutti, eccoci qua pronti come sempre. Arrivato sul filo, perché insomma abbiamo iniziato leggermente in ritardo, è tutta colpa sua. Sempre colpa mia. Sempre colpa sua, reduce da una bellissima live di archeologia informatica ieri sera con 7-8 partecipanti, un talk show incredibile, che insomma ha riscosso anche tantissimo successo, e Davide Gatti. Buonasera, anch'io sono reduce, solo che io sono vecchio ormai, mi hanno già dato del vecchio 2-3. Io in particolare ho dato del vecchio. Carlo invece è sempre bello. Perché io sono 2-3 anche un po' a volte. Tra l'altro salutiamo il canale Survival Hacking, ovviamente di Davide Gatti, perché oggi ha raggiunto la fatidica cifra dei 23.400. 56, quindi 2, 3, 4, 5, 6, incredibile, hai fatto scala, insomma. Esatto. Hai capito. Ma l'ospite speciale di questa sera, che parteciperà anche a un'altra puntata più in là, insomma, durante la stagione, anzi in realtà avrebbe dovuto prima partecipare a questa puntata che dovevamo fare ma ancora non abbiamo fatto, però insomma alla fine abbiamo anteposto Spazio 1999 a un altro personaggio già citato nelle nostre puntate, e c'è Claudia Maravalle. Ciao Claudietta. Ciao a tutti, benvenuta, siamo contenti di averti qua. Non so se è la prima volta che sei in Runtime by Night. Sì. Quando eravamo futuro. Sì, scusate. Però tutti i programmi ci impicciamo un pochino. Si vuole fare una trasmissione a sera e quindi c'è un attimo di confusione. Esatto. Ma mi sembra normale. Io sì, no, ho partecipato qualche volta alla chat in live, però è la prima volta che vengo. No, con te abbiamo fatto però non c'entra niente di quando eravamo futuro, abbiamo fatto gli speciali su Star Trek, mi pare. Esatto, abbiamo parlato male di Discovery, giustamente. e invece immagino come che un giorno. Giustamente, Discovery bisogna in parlare. In certi momenti, giustamente. No, io devo dire la verità, voglio fare, lo faremo, ci organizziamo con Claudietta, facciamo una sera, ci mettiamo lì, facciamo una call e organizziamo una puntata invece su Strange New Worlds, che è quello, insomma, secondo me. Un po' spinto, diciamo, un po' di trecchismo, insomma. Poi, insomma, ognuno vede, che dici? Sì, molto volentieri. Bene, allora intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando. Vi ricordo che potete tranquillamente interagire con noi se ci state ascoltando su rantameradio.it, che è ovviamente l'unico posto dove potete ascoltarci. Potete interagire con noi su telegram.me/dirette runtime, che è il posto, insomma, dove già vedo che ci sono, c'è Andrea Trevisan, insomma c'è un po' di gente già, c'è Davide Gatti anche in chat, insomma. Vedo che si sono uniti nuovi personaggi, Vincent Valentine, e poi sono entrati anche persone, quindi diamo un po' di benvenuti. Vai Carlo, tu, che perché io o guardo il mixer o guardo. C'è il signor Pixel Prog detto Marco, o Marco detto Pixel Prog, adesso lo sceglieremo, che è arrivato, e poi un signor Zlatko, che sembrano provenire dal canale Survival Hacking di Davide Gatti. Presumo di sì. Uno si è proprio presentato dicendo arrivo dal canale, quindi lì era facile. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, sì, c'è qui gente che fa cena al sacco, confermo. Allora ragazzi, parliamo di Spazio 1999, che adesso poi introduciamo, diciamo, facciamo prima una pre-introduzione al discorso, poi ognuno dice la sua. Io dico in senso generale, poi Carlo giustamente dice facciamo poi delle precisazioni per quello che riguarda l'Italia, perché in senso generale nonostante tante serie di fantascienza ci sono state, insomma, negli anni 70, anche 80, diciamo, prendiamo Galactica, prendiamo Buck Rogers o tantissimi altri, comunque diciamo che la fantascienza televisiva post Star Trek comunque in qualche maniera ha risentito, no, di quella che è un po' la cultura diciamo visionaria, concettuale, ma anche fotografica, perché comunque poi alla fine diciamo che Star Trek in quel modo di fare show comunque ha un po' influenzato tantissimi altri prodotti televisivi, e secondo me in parte anche Spazio 1999, così come se, a mio parere ovviamente è un discorso inevitabile, però diciamo che se Star Trek ha avuto un forte impatto culturale a livello americano, quindi magari internazionale, la cosa, come giustamente fa presente Carlo, non è uguale in Italia, perché comunque da noi i prodotti sono arrivati lo spiego facilmente, cioè allora, come hai detto tu, sicuramente Spazio 1999 nella produzione è stato sicuramente influenzato da Star Trek, perché la produzione è inglese, anche se coprodotta dalla Ride, ma ovviamente la produzione, regia eccetera era tutta inglese, e quindi in Inghilterra Star Trek era già ben arrivato, perché Star Trek esce negli Stati Uniti l'8 settembre del 1966, e tra il 66 e il 75, quando è stato prodotto Spazio 1999, sono passati un bel po' di anni. Peccato che però in Italia, e forse non so, caso più unico che raro, perché penso che non ho indagato, ma in quasi tutto il mondo Star Trek era già uscito, in realtà in Italia esce Spazio 1999, che da noi nessuno aveva mai visto e probabilmente mai neanche sentito nominare Star Trek. Infatti da noi ha un effetto molto diverso. Noi infatti italiani, io ero bambino, avevo 6 anni quando esce Spazio 1999, me lo ricordo come qualcosa di fantastico, mai visto, originalissimo. Confermo. E ho dei ricordi molto vividi di questa cosa, che usciva questo telefilm particolare, che viene proiettato oltretutto su Rai 1 e Rai 2, ok, Spazio 1999, nel 1976, è andato su Rai 1 dal 76. Star Trek arriva da noi su Tele Monte Carlo, quindi una televisione, se vuoi, neanche secondaria, italiana, esatto, che non viene neanche presa in tutta Italia, il primo maggio del 79, cioè 13 anni dopo la messa in onda della serie originale negli Stati Uniti. Certo. E oltretutto su Telemonte Carlo viene chiamata Star Trek Destinazione Cosmo. Ricordo di pochi, Destinazione Cosmo. Era il sottotitolo della trasmissione. E viene vista sì e no da pochi, perché il successo, tra virgolette, di Star Trek avviene l'anno dopo, perché da noi l'anno successivo di quando è uscito, cioè nel 1980, arriva il film al cinema di Star Trek. Sì. Il 3 aprile del 1980 in Italia esce il film al cinema. Uscendo il film al cinema si accende un po' l'interesse su Star Trek, e a partire dall'estate seguente, quindi dal 1981, Star Trek si diffonde sui circuiti delle televisioni private, ok? E quindi inizia a essere diffuso su tante TV private italiane, fino a poi approdare Italia 1. Ma stiamo parlando veramente di anni e anni dopo, quindi sì, noi Star Trek l'abbiamo vissuto molto dopo il resto del mondo, e in realtà abbiamo vissuto molto prima Spazio 1999. Sì, ecco, forse per questo che da noi hai fatto bene a fare questa precisazione, perché in realtà noi oggi filologicamente facciamo un discorso vedendo a posteriori le cose, ci rendiamo conto osservando le cose quanto alcune cose abbiano influenzato altre cose. Però da noi, come giustamente tu dici, alla fine, cioè, cronologicamente le cose in realtà sono spostate. Questo è un discorso che abbiamo fatto anche con gli anime, no? Cioè, nel senso che sì, alcuni cartoni animati, esatto, sono arrivati dopo, quando invece dovevano arrivare prima, e via, esatto, dicendo, insomma. Mm. Però qui abbiamo tutti, siamo tutti della generazione di quelli che penso che Spazio 1999 quantomeno l'abbiamo visto da ragazzini, da ragazzinissimi, sì, anzi, sì, esatto, da bambini, in televisione, sì. Claudia, quindi insomma... In televisione, le prime puntate che io le ho iniziate a vedere quando le mandavano al pomeriggio, mm-hmm, quindi non la prima mandata, diciamo, sì, esatto, ma le repliche che uscirono l'anno successivo, e poi alle repliche si unirono le puntate della domenica pomeriggio. Uh-huh. Per cui c'è stato anche un periodo che c'era la doppia puntata, una puntata in settimana e una puntata la domenica pomeriggio, quindi anche la cronologia era un po' mischiata. Perché io ero talmente piccola che ancora non mi facevano vedere la televisione la sera, quindi non l'ho potuto vedere in prima. A nanna dopo il carosello. Esatto. Sì, assolutamente. Beh, io nel 76 avevo 4 anni, quindi sai, le prime puntate che ho visto le ho viste in bianco e nero, perché avevo ancora televisione in bianco e nero. È vero, anch'io infatti me lo ricordo come un telefilm in bianco e nero, ho scoperto solo dopo anni che in realtà era a colori. No, io poi dopo un po', siccome andavo la domenica pomeriggio a casa di mia nonna, loro stavano in salotto a chiacchierare e lei aveva la televisione a colori, vedevo praticamente una puntata al pomeriggio a casa mia in settimana in bianco e nero, una puntata a colori a casa della nonna. La nonna ricca. Comunque le quadrature era ricca, e quindi c'aveva la televisione a colori. Le quadrature in esterna sulla luna erano sempre in bianco e nero comunque. Sì, beh sì. Beh. Era uguale, non cambiava moltissimo. Esatto. Però la tuta arancione. Io infatti in realtà niente è in bianco e nero, perché pure le esterne comunque ci sono, comunque tutte le piattaforme che sono colorate, sono rosse, sono, cioè, nel senso, quindi alla fine il colore, cioè, noi ricordavamo questa cosa, poi Carlo ci confermerà, ma mi pare che ne abbiamo già parlato 3-4 volte anche di questo, che in realtà la Rai coprodusse questo show televisivo proprio perché era l'epoca in cui, a metà degli anni 70, la Rai aveva cominciato a, e questo ne abbiamo parlato tante volte quando abbiamo fatto le puntate sulla Rai, sull'emittenza televisiva in Italia, aveva cominciato a fare la sperimentazione della trasmissione a colori. Tra l'altro, in Italia, come sempre è successo in tantissime altre situazioni, qualsiasi tipo di innovazione veniva regolamentata politicamente anche dal ministero, cioè si decideva quest'anno le ore a colori sarà come se le ore a colori costavano, che ne so, di più o roba del genere. Sì, in parte, costavano di più. Ne abbiamo parlato, forse non mi ricordo se in quando eravamo Futuro o in altra puntata, ma noi in Italia siamo stati l'ultima nazione europea a implementare la televisione a colori, quando esisteva già da anni negli Stati Uniti, addirittura dagli anni 50, e da noi è arrivata molto molto tardi, è stata ufficializzata, se non mi ricordo male, nel 1978 addirittura, quindi un bel po' dopo, e le sperimentazioni sono iniziate appunto nel 76, quindi quando è andato in onda Spazio 1999 con alcune trasmissioni a colori. E questo perché non si era deciso a che standard appoggiarsi tra il SECAM francese e il PAL tedesco, e voleva dire soldi perché voleva dire pagare i diritti a una delle due, diciamo, consorzi quindi ora dare i soldi ai francesi, ora dare i soldi ai tedeschi, nel caso specifico alla Telefunken che inventò il sistema PAL. Esatto. Ma poi, tra l'altro, come tu hai ricordato in una puntata precedente, quando abbiamo parlato proprio della televisione, l'Italia ha provato a fare un suo standard. Esatto, addirittura tra i due litiganti, dopo anni che si erano decisi se fare Seccam o PAL, addirittura venne la proposta dal governo di uno standard italiano sviluppato dalla Indesit italiano. E comunque poi alla fine saltò tutto e alla fine si decise di andare col PAL, per nostra fortuna, perché veramente se fossimo stati Seccam, buonanotte, cioè, avremmo sofferto le pene dell'inferno. Comunque. Davide, tu invece, però tu mi pare di aver capito, così percepito precedentemente, che tu l'hai visto Spazio 1999, ma non è che proprio te ne fregasse. Sì, allora, esatto, io ero un po' più grande di voi, perché come ho già anticipato sono un po' più vecchio. Sei vecchio, chiaro, sicuramente, certo. L'ho visto a colori e probabilmente l'ho visto anche su una TV per i fatti miei, nel senso che avevo già una TV anche per i fatti miei nella mia camera. E io adesso cronologicamente sai che faccio fatica a ricordarmi. Tu hai menzionato avete menzionato che più o meno è uscito Star Trek dopo, molto dopo, e invece molto. Avevo in mente che fosse uscito prima Star Trek, ma e poi, guarda, questo invece... se stai dicendo che l'hai visto in cameretta, in camera tua, a colori, con una TV tua a colori, non puoi averlo visto nel 76. No, allora l'ho visto dopo, l'ho visto, quindi l'hai visto sicuramente dopo in varie repliche, e probabilmente l'hai visto già quando era uscito Star Trek, quindi dopo il 79. E secondo me, io che l'ho vissuto in questo modo, cioè di averlo visto dopo Star Trek, ho avuto una sensazione differente rispetto a chi l'ha visto prima di Star Trek. E questo è ovvio, sì, se da una parte, certo. È ovvio. Sì. E ho sempre, diciamo, io poi, come avevo già raccontato, l'avevo visto in quel periodo e poi non l'ho mai più rivisto successivamente, fino a oggi, fino a una settimana fa, in cui mi sono guardato un po' di episodi per un po' riallinearmi. Però è una cosa che ho visto una sola volta e poi non l'ho mai più rivisto, contro invece Star Trek, che l'ho rivisto moltissime altre volte, certo. Eccetera. Quindi avevo dei ricordi un po' così, sempre un po' sciapi, nel senso, bello, ma non saprei, cioè non mi aveva creato quell'entusiasmo che mi aveva creato Star Trek. E parlo sempre dell'epoca, adesso lasciamo stare che poi Star Trek è evoluto in 3500 cose, no? Sì, ma ci sta come tipo di discorso. Se l'hai visto a posteriori, perché comunque anche, certo, il valore creativo e produttivo di Star Trek chiaramente era tutto un altro impatto. Però devo dire, qui torno un attimo a Claudia, che ciò nonostante tutte le influenze, comunque secondo me è stata una serie che ha cercato di costruire una sua indipendenza culturale, no? Cioè, nel senso, comunque ha cercato di trovare una sua identità. Però, e questa è una cosa che io ho notato, non so se l'hai notato anche tu, negli anni a un certo punto si era un po' perso Spazio 1, cioè, nel senso, la gente se n'era quasi dimenticata. Sì, io ho un sacco di coetanei, tra l'altro, che dicendo: ah sì, forse vagamente mi ricordo qualcosa, ma non ha avuto assolutamente a livello di impatto, cioè pochi fan abbastanza agguerriti, ma non il successo di base, di pubblico, che aveva avuto Star Trek, che aveva colpito molto di più. Scusate, io ogni tanto non ti preoccupare, noi ti ascoltiamo in silenzio. No, che poi mi aveva colpito questa cosa, se dico stupidaggini. Mi aveva colpito questa cosa, perché a un certo punto, quando io verso i 30 anni, mi ricordo che a un certo punto ho sentito una persona che ci parlava: no, perché dai, quando ero ragazzo c'era Spazio 1999. Io mi sono guardato, cazzo, allora non so solo io a ricordarmelo. Anche a me è capitato questo effetto. Tra l'altro, io ero molto fan, per cui i miei mi avevano comprato tutti i libri. Pensavo i giocattoli. Qualcosa di giocattoli, sì, ma non era quello che interessava a me. Mi avevano comprato tutte le novellizzazioni fatte da Gianni Padoan. Mm-hmm. Con libri bellissimi, tra l'altro, con le foto in cui lui raccontava la stessa identica storia, solo che appunto novellizzata, quindi con l'aggiunta di un sacco di dettagli tecnici, in cui aveva anche dato tutta una serie di spiegazioni tecniche su come funzionavano gli accessori. No, una roba fighissima. Tra l'altro, in un trasloco andarono distrutti sti libri. No, vabbè. No, guarda, mi è pianto il cuore. No, scusate, non in un trasloco, nell'alluvione di casa di mio papà, perché erano rimasti da lui. Quindi ciao. Quella è roba da collezionismo, oggi. Era una roba da collezionismo, sì, assolutamente sì, bellissimi. Tra l'altro con la copertina cartonata rigida, patinata, veramente fighi. E non si trovano, li ho cercati poi più avanti su eBay per vedere se ne trovavo qualcuno in negozi di libri usati eccetera, non li ho mai trovati, tant'è che a un certo punto ho anche pensato me li sono sognati, invece no, e hanno fatto più tardi un'edizione economica, che adesso qualcosa di usato si trova di questa edizione economica, però era la stessa, lo stesso autore. Guarda, ho appena trovato gli originali su eBay, se ti interessa. In questo momento no, ma mandami il link, perché più avanti lo prendo. No, ho appena traslocato e non ho spazio, ma sì, sicuramente è una roba che mi interessa. No, adesso lo ricercherò. No, sai che mi piacerebbe leggerli anche lei. Io neanche, devo dire la verità, non sapevo neanche dell'esistenza dei libri. E sicuramente quello che poi il telefilm tralascia molto è tutta un po' la parte tecnica, che poi tra l'altro, esatto, poi dopo lo approfondiamo, sta cosa che secondo me molto è influenzato anche dalla localizzazione italiana, che secondo me un po', insomma, però prima di arrivare a questo, e quindi scusa, è che io ho fatto come mia una delle tesine che ho dovuto fare quando ho fatto la civica scuola di cinema, era storia dei media, e la professoressa ha detto vabbè sì, fate ognuno una tesina su quello che volete, immaginandosi che facessimo la classica cosa eccetera eccetera. La mia tesina è stata un'analisi sociologica a raffronto su Star Trek e Spazio 1999, in un momento in cui non esisteva internet, per cui io l'ho fatta a memoria, cioè con quello che mi ricordavo. Andavo. Senza poter fare nessun tipo di ricerca, perché internet appunto era agli albori, ma non trovavi questo genere di informazioni, non trovavi cronologia, non trovavi niente. Per cui l'avevo fatto un po' guardando su alcuni di questi libri, andando a cercare sui libri che io avevo su Star Trek e cose di questo tipo. Era una tesina breve, 30 pagine, quindi chissà che. Purtroppo non ce l'ho più, però mi ero molto divertita a farlo, e avevo scandalizzato la mia professoressa, che riteneva queste robe qui cazzate. Quindi sì, beh, questo è un approccio culturale tipico. Sì, un approccio culturale vecchio. Vecchio, ma ci siamo portati avanti anche negli anni, non è che è una cosa che era solo allora negli anni Ottanta, insomma. Comunque, no, è così anche adesso. Vi faccio una domanda, partendo da Claudia, poi Carlo e ovviamente se vuole anche Davide, anche se capisco che magari è una domanda un po' più specifica. Prima di entrare negli approfondimenti che ci siamo segnati un po' così, poi ognuno aggiungerà un po' le parti sue. Claudia, secondo te in che cosa Spazio 1999, così a livello così di percezione e di sensazione tua, quindi nel senso proprio tuo personale, in che cosa Spazio 1999 ha trovato una sua identità? Cioè, che cos'è che ti fa dire ecco questo è Spazio 1999 rispetto a tutti gli altri, no? Ad esempio, ok, allora come prima cosa è la sua impronta profondamente europea, si vede proprio, soprattutto la prima serie è proprio diverso, ha un respiro e un'apertura verso l'esterno, per quanto noi siamo comunque terrestri scimpanzé che pigiano tasti a caso, sì, nella maggior parte delle volte, eccetera, che però è sicuramente più di mentalità aperta e non è americacentrico, mentre in Star Trek comunque tu ce l'hai sempre la sensazione che loro sono americani nello spazio. Qui no, lo vedi, è proprio, pur essendo un cast tutto umano, mentre in Star Trek avevi l'elemento alieno, solo nella seconda serie si aggiunse Maya, ma è però un cast di maggiore respiro, dove i personaggi, tra virgolette, stranieri, cioè quelli non di lingua madre inglese, diciamo, però non sono guardati con spocchia, non sono il personaggio macchiettistico, come era il Chekhov di Star Trek. Certo. Ma sono considerati di pari dignità di tutti gli altri, anzi, essendo una serie tra l'altro appunto coprodotta italiana, ebbero grande rilievo i protagonisti italiani. La puntata di chiusura della prima serie aveva come protagonista Orso Maria Guerrini. Mm-hmm. Cioè, sì. Non proprio Cicci, ecco. grande, e proprio i personaggi erano visti con dignità, c'erano tanti cognomi italiani anche tra i personaggi secondari, eccetera. Ma non solo, c'era un po' di tutto dentro. Quindi questo, il design, anche l'impronta del design è chiaramente europea, e c'è tantissimo di italiano dentro, tantissimo. La maggior parte degli oggetti sono di Artemide, sono di Guzzini, sono tutti oggetti di architetti italiani, quindi insomma notevole lo stile, la pulizia un po' nordica, sì, sì. No? Il layout generale, devo dire, il layout generale, così. L'essenzialità, sì. E poi l'altra cosa che io trovo assolutamente, che io ho apprezzato tantissimo, è che in realtà appunto io non lo sapevo che Spazio era successivo a Star Trek, però già la visione della figura della donna era molto più avanti, sì, certo. Era un bel po' di anni dopo, in ogni caso. Sì, ma hai una protagonista femminile che, per carità, è una bella donna, sensuale, quello che vuoi, eccetera. Ma il focus non è sulle sue gambe, è sul suo cervello. Sì, sì, è vero, è vero. Rispetto a Uhura, per esempio, oppure tutti rispetto i personaggi che stavano con le cosce di fuori, certo. Coscia di fuori e stacco di coscia messa in quel certo modo perché si doveva intravedere la mutandina, il pantaloncino sotto il gonnellino. Qui no. C'è un'unica puntata in cui lei ha un abito da sera in cui si intravede qualcosa che è un pochino più così, però è una su 48. Sì, che poi sì, lei è un personaggio interessante e carismatico. Carismatico, cioè non è una bomba sexy, capito? Cioè, nel senso, no, comunque per la mia bambina fu molto di ispirazione. Certo. Perché era una donna scienziata, una donna che lavorava con gli uomini da pari. Anche il fatto che avessero scelto che le storie sentimentali, infatti le svilupparono di più nella seconda serie perché lì era entrata una produzione americana e allora hanno fatto dei cambiamenti, ma nella prima ci ha accennato qualche sguardo, ma il focus non è su quello, è sul sentimento umano, sì. Non sulla storia d'amore, non c'è questa ricerca del meccanismo di identificazione che lui è un Latin lover e lei, cioè, lui non è Kirk, insomma, questo è esatto. E questa è la cosa che a me è piaciuta di più, perché sono personaggi in cui molto più, secondo me, aspirazionali e non adolescenziali, perché invece Star Trek è adolescenziale. Star Trek più ormonale. È ormonale, esatto. Posso dire una cosa e poi passo la parola a Carlo? Aspetta, Carlo, mo te la passo. Sì. Diciamo che c'è anche un aspetto proprio legato sul rapporto tra il comandante e la dottoressa, che tu lo sai che c'è un legame, no? Esatto. E lo rimarcano in maniera, però non è mai così, cioè, nel senso, tu dentro di te, anzi, ti fa immaginare che veramente loro sono innamorati o via dicendo, senza che questa cosa poi approfondisca, venga mai detto, oppure venga mai esagerata, no? Poi vabbè, chiaramente lui, quando è lui in pericolo, lei è disperata e viceversa, insomma, no? Però in generale, ecco, l'unica cosa che dico, e poi passo a Carlo, è che tutto questo discorso della donna, però poi a volte viene un po' mancato quando c'è quell'atteggiamento tipico degli anni 60 e 70, ma in particolare negli anni 60, se vi ricordate, che la donna, quando c'è qualcosa di brutto, è sempre, sì, l'oggetto che deve urlare, no? Cioè sta lì, sì, sì. Oppure si deve stringere all'uomo, al petto, sì, dell'uomo, no? Questo è verissimo, però purtroppo temo che quella fosse una cosa. Vabbè, quella purtroppo poi è ancora la società molto condizionata da quel tipo di logica. Carlo. Sì, volevo solo mi accodo un attimo a quello che ha detto Claudia, giusto per una precisazione. È giusto quello che hai detto tu all'inizio, cioè che è molto europeo, e anche questa visione della donna e del fatto di quello che hai detto della visione di una serie TV non adolescenziale è perché è una produzione europea. Più che i 10 anni che sono passati tra Star Trek e Spazio 1999, che se vuoi dal 66 al 76 sì, la società è cambiata, ma non così tanto nella visione anche della donna, come giustamente ha detto prima Simone, ma il fatto di vederla così era proprio perché la prima serie è una produzione completamente europea, Inghilterra, Italia, quindi UK, Rai in Italia, mentre se infatti fai la differenza tra la prima serie di Spazio 1999 e la seconda, che invece diventa una produzione americana, sì, perché se ne esce la Rai diventa americana, infatti nella seconda serie chi arriva? Arriva la gnocca, no? Arriva... Esatto. Esatto. E le donne mettono le gonne più esatto, esatto. Trek, ma passano a indossare le donne. Le gonne, le gonne nella seconda serie diventa sì. Proprio c'è Maya che è proprio l'effetto della perché gli americani ne sapevano. Perché per è attirare. Proprio la differenza di produzione rispetto tra una serie europea dove diciamo la parte sensuale eccetera è vista in maniera più psicologica, comunque di rapporti eccetera, e quella americana che invece proprio vista in maniera mercificata, quindi è così. Quindi questo, più che i 10 anni che passano da una serie all'altra, è dovuta dalle due differenti produzioni. Assolutamente. Diciamo che negli anni mi è capitato molto, cercando di portare un po' anche avanti la discussione, mi è capitato tantissime volte di vedere la gente, quando capitava di una riproposizione Spazio 1999, che leggeva Rai, Radio Televisione Italiana, come coproduzione, e stupirsi di questo fatto. Però in realtà dagli anni 50 in poi, diciamo, questa è una cosa abbastanza importante sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista televisivo. Comunque l'Italia ha prodotto tante opere di fantascienza, tantissime cose, cioè, anzi c'è stato un momento in cui era, non dico un riferimento, però insomma diciamo ha fatto un certo tipo di scuola. Io ricordo già la prima versione di Io sono leggenda, ad esempio L'ultimo uomo sulla terra, comunque alla fine se vai a vedere comunque è un film italiano degli anni 50 poi alla fine, no? Cioè, sì. Nel senso, sì. Da lì ecco mi viene in mente invece andando verso la televisione A come Andromeda, che è sì insomma fantastico. Un'opera non italiana, però è una produzione, cioè nel senso quello è uno sceneggiato Rai, certo. Meraviglioso tra l'altro, cioè io difficile recuperarlo, se potete recuperarlo, no, credo che ci sia anche quello sulle Teche Rai, ok questo mi fa piacere che oggi finalmente riesci a ritrovarli, insomma sì, ma infatti io amo le Teche Rai, cioè. Beh guarda, Rai Play ragazzi è stata una manna dal cielo, devo dire la verità. Tra l'altro lo diciamo che Spazio 1999 è integralmente disponibile nella versione restaurata, la prima serie sì. Bello. Comunque la storia che dicevi tu del fatto che fosse prodotto in Italia, non in Italia, scusa, in Inghilterra, ma coprodotto dalla Rai, c'era di mezzo la scritta Rai. Io invece, per come mi ricordo, per come l'ho vissuto, non era una cosa positiva, era una cosa negativa, per quanto io l'ho vissuta, cioè vedevo questa roba fatta dall'Italia, fino dalla Rai. Anni 80 era così, cioè fine anni 70 inizio anni 80 diventava così, per poi diventare così negli anni 90, cioè non era più sinonimo, ma negli anni 70 invece no. Però io probabilmente appunto avendolo visto negli anni 80 e avevo di fronte lo Star Trek di fianco, certo. Dicevo questo è fatto dalla Rai, vabbè porcheria, cioè non era un segno positivo, ecco, è quello che volevo dire. No, invece come dicevamo, ho detto, le produzioni italiane non erano magari il punto di riferimento in senso assoluto, ma era comunque una scuola che c'aveva il suo background, no? Quindi alla fine gli inglesi e gli italiani che si sono trovati su un territorio comune, poi tra l'altro ricordiamo sempre un mondo non globalizzato, quindi ritorniamo sempre esatto. Che una cosa erano altri tempi, quindi c'era già una differenza dal punto di vista dell'approccio probabilmente tra autori di diverse nazioni, no? Però che comunque su un terreno comune, probabilmente su una scuola comune, sono riusciti a fare un'opera che secondo me, e poi tra l'altro aggiungo che secondo me è europea anche nel ritmo come serie TV, cioè rispetto a, cioè nel senso c'ha molto dei tempi a volte anche dilatati, insomma, no? E c'è anche un'ingenuità narrativa di fondo su alcune cose, tipo quello è pericoloso quindi vado lì, cioè ma perché ci vai? È pericoloso, non ci andare, no? Vabbè, ma quello c'è in tutti i film. Sì, vabbè, come dice lo scantinato, no? C'è un rumore nello scantinato, vado nello scantinato, ma non ci andare nello scantinato, che cazzo. Esatto. Comunque in chat commentano e dicono anche la loro, qualcuno. Sì. Vai, leggi, leggi. Per esempio qualcuno dice, poi adesso da capire, il fatto è che in spazio 1999 erano tutti perdenti fin dall'inizio con la separazione della Luna alla Terra e dopo cercano solo di sopravvivere. In Star Trek erano vincitori e poi aggiungono e Kirk, insomma, dillo, trombava qualsiasi cosa. Allora, questa cosa del non respirava, trombava lo stesso, esatto. Anche se respirava cloro cloruro di potassio, non so, qualsiasi cosa, insomma. Sì. Va bene, la serie Spezia del 1999. Io a questo punto, proprio perché non parlo più, quindi va bene. No, vai, scusa. No, perché toccava a me, perché prima ho fatto solo un commento. Hai ragione, ma io leggo, faccio, capito? Quindi devi capire, insomma, poi perdone. Siccome volevo dire un paio di cose, almeno per me importanti. Una l'hai accennata tu, cioè che vivevamo in un mondo non globalizzato, ma soprattutto vivevamo anche in un'Italia non globalizzata. Esatto. L'esperienza che hai avuto tu, cioè il fatto, questo succede spesso quando facciamo questo podcast, perché tu parli di quello che hai vissuto tu e io mi trovo a raccontare un'esperienza completamente diversa rispetto a quella che hai vissuto tu negli stessi anni, perché noi abbiamo 2 anni di differenza, quindi non è che siamo proprio, non è come Davide che sai, a quell'età c'erano pochi anni di differenza, facevano tanta differenza, perché quando noi non potevamo vedere la televisione la sera, lui invece andava in giro a cercare le ragazze praticamente, quindi sono quegli anni che fanno una certa differenza. Mentre io e te, Simone, siamo praticamente coetanei, che io sono del 70 e tu del 72. Tu prima hai detto, ho passato anni in cui pensavo di essere l'unico a aver visto Spazio 1999 e poi a un certo punto ho trovato uno che mi ha detto, ah, ti ricordi Spazio? Ecco, io invece ho un'esperienza completamente diversa, perché da quando è uscito Spazio 1999, che ripeto, in Italia ha avuto un successo clamoroso all'epoca, uscì, proprio perché era sulla Rai, era la prima volta che si vedeva un telefilm del genere, perché noi non conoscevamo Star Trek, quindi era veramente una cosa catalizzante per un certo tipo, diciamo, di ragazzi che avevano un certo tipo di passione. Io non so, poi si vede che la mia vita l'ho vissuta con altri nerd, probabilmente. Beh, quello sicuramente è influito. Esatto. Noi conoscevamo tutti Spazio 1999 e portavamo avanti, diciamo, il ricordo, la tradizione, continuavamo a parlare. Non solo, anche perché Spazio 1999, ricordiamo, è una serie ideata da Jerry e Sylvia Anderson. Gli Anderson non fecero solo Spazio 1999, cioè Spazio 1999 è il telefilm che fecero dopo UFO, gli stessi autori, e fecero Thunderbirds, e fecero Capitan Scarlet, assolutamente, tutta roba sulla quale torneremo prima o poi, perché, quindi sono un sacco di serie prodotti da Jerry e Sylvia Anderson, di cui Spazio 1999 è solo una di quelle. E prima hai chiesto qual è secondo voi la caratteristica distintiva, cioè io ero un bambino, ma la cosa più bella per me che c'era in Spazio 1999, al di là della storia, che avevo 6 anni, 7 anni, quindi sai, la capivo e non la capivo, cioè mi piaceva, ma gli effetti speciali per quell'epoca erano qualcosa di incredibile, signori, sì. Perché veramente, ed erano veramente fatti bene, perché innanzitutto quello che adesso chiamiamo il mecha design, cioè la tecnologia, era bellissima come bellissima. Design, e le aquile erano fantastiche. Ma io ci volevo arrivare dopo a questa il cosa. Il giocattolo dell'aquila era uno dei più bei giocattoli. Quando io, i miei genitori per Natale, ho voluto il modellino dell'aquila della Dinky Toys in metallo presso fuso, io avevo l'aquila di Spazio 1999, era il mio giocattolo preferito e l'ho stato per un sacco di anni, e era così per tantissimi bambini di quel periodo. Gli effetti speciali furono curati dal Brian Johnson, che era quello che aveva lavorato agli effetti speciali di 2001 Odissea dello Spazio, okay? Cioè, fece poi film come Alien, L'Impero Colpisce Ancora, quindi stiamo parlando veramente di gente ad altissimo livello, il massimo della professionalità che esiste. Occhio. Claudia, mi sa che il tuo microfono sta facendo. Ti sta esplodendo il microfono, Claudia, non so che sta succedendo. Esplodo. Eccola, grande. Sì, adesso sì. Comunque stai praticamente acchiappando una parte del documento che sta sotto. Io non volevo di niente, insomma. Però, scusa, se vogliamo mantenere un ordine, No, ma era, mi chiesto prima qual era la cosa migliore per me. Per me era quello: c'erano gli effetti speciali e che lo caratterizzavano tantissimo e caratterizzavano quel tipo di design di modellini, e il fatto che ci fossero quei giocattoli era una caratteristica comune di tutte le produzioni di Jerry Sylvia Anderson. Comunque invece ho finito, dico la mia, ma proprio due secondi. Comunque salutiamo Massimiliano e salutiamo Paola che sono entrati in chat. Dicevo, io come dicevo l'ho visto negli anni che furono e ho rivisto alcuni episodi di recente, e se devo fare un mio pensiero su questi pochi episodi che ho visto, posso dire che ho sentito più un sapore di contenuto più che di tecnologia. Ecco, c'è tanta tecnologia, ci sono tante cose, si vede che siamo nello spazio eccetera, però quando ho visto questi tre episodi sembrava, non dico che sembrasse un contorno la tecnologia, però non era così in rilievo, era molto più in rilievo la storia e tutto quello che era l'avventura, mentre di contorno c'era la tecnologia. L'ho trovata un po' sottotono, chiaro, io la vedo con gli occhi di oggi, di una roba fatta 40 anni fa, quanti anni fa? 50, no? Quanti anni sono passati? Da che cosa? Quasi 50, sì, 76, sì. Quindi ne mancano pochi. 50 anni fa, però nel contesto mi sembra che abbiano lavorato più sul contenuto che sul contorno, ecco. Ma secondo me hai questa percezione perché adesso lo stai guardando con occhi adulti. Esatto. O comunque anche l'hai visto dopo. Smaliziati che hanno visto tecniche mille volte più avanti, certo. Lo devi calare in quello che era quel momento lì in cui le due cose sono andate abbastanza di pari passo. In realtà c'era tanto contenuto ma anche tantissima tecnologia. È ovvio che con i nostri occhi la tecnologia ci sembra molto, sì, però io quando l'ho vista a me sembrava tutto così avveniristico, no? Cioè al di là delle cose andiamo un attimo con ordine, ragazzi, così almeno, certo. Cioè, poi ce li spolpiamo, no? Parliamo proprio di Spazio 1989 partendo dalla trama e dagli elementi fondamentali, no? Io il primo punto che ho messo: questi avevano una base stabile e permanente sulla Luna. Sì. Nel 1999, ossia praticamente 30 anni fa. erano 24 anni fa. Ottimisti negli anni 70. No, molto è molto ottimisti, anche perché loro, quanto sarebbe passato dalla prima missione Apollo sulla Luna rispetto a 1999? Quanti anni passavano? 20 anni? Sì, no, nella finzione, scusami, pensavo, sì, nella realtà. Sì, no, sì, sì. No, tra l'altro. Nella finzione 20 anni, sì. In 20 anni questi sono andati col primo sbarco sbuciato sulla Luna, perché poi ricordiamo, insomma, tutti i problemi annessi e connessi, e i Commodore 64 erano più potenti, a avere già una base stabile sulla Luna nel 1999. Una base stabile con la gravità artificiale, esatto, questa, sì, va bene. Per uso industriale praticamente, poi. Esatto. Tra l'altro, una base che era sulla Luna per motivi scientifici e soprattutto perché doveva essere il punto di partenza per un'esplorazione nello spazio profondo. C'era una missione, se vi ricordate la prima puntata, la missione Meta, certo. Esatto, cioè la prima puntata loro dovevano andare a visitare questo pianeta che era raggiungibile solo in certe condizioni e via dicendo, solo che poi c'era una malattia. E questa cosa oggi nel 2022 è il punto di partenza di quello che sarà la missione Marte, perché ovviamente il primo step sarà una base semipermanente sulla Luna che servirà come veicolo di partenza per la missione di Marte. Cioè, nel senso, stiamo parlando di questi, si erano immaginati che tutta sta roba noi l'avremmo fatta nel 1999, e come dice Claudia, è l'ottimismo degli anni 70, cioè, assolutamente. Comunque è pazzesco pensare che abbiano potuto anche solo immaginare una serie del genere, considerato il fatto che noi sulla Luna ci eravamo andati pochi anni prima, cioè era una cosa fresca ancora. 6 anni, 7 anni erano passati praticamente. Quindi chi lo guarda, noi eravamo bambini, quindi magari non realizzavamo, chi lo ha guardato da adulto, chi lo ha pensato da adulto aveva ancora fresche in mente le immagini l'entusiasmo della corsa dello spazio, quindi pensava che come che da lì al quel momento le cose potevano solo esplodere, no? Sì, ma erano nel pieno della corsa dello spazio, perché erano gli anni di Apollo 13, erano gli anni dei primi Viking che andavano su Marte, erano quegli anni lì, la metà degli anni 70. E quindi c'era una proiezione fortissima, un desiderio fortissimo e quindi un ottimismo e una volontà. Viva l'ottimismo. Sì, esatto. Sì, anche se già all'epoca non mancavano ovviamente le visioni più realistiche, tra cui una molto importante fu addirittura, ne scrisse Isaac Asimov. Isaac Asimov ne scrisse sul New York Times un articolo dove parlava di questa nuova serie TV che era appena uscita, Spazio 1999, criticandone in alcuni punti, tra cui anche alla fine, concludendo l'articolo, elogiando comunque il soggetto e la qualità della serie, diceva sì, però 1999 è troppo presto, passerà almeno altri 50 anni prima di avere forse una colonia lunare permanente. E non sono bastati. No, c'è quasi, perché sì, lui diceva sì, 50 anni dal 1999, quindi lui 2050 predice, più o meno ci sta azzeccando, meno, poi non lo sappiamo, però lo sappiamo. Di sicuro era molto più realistico Isaac Asimov di e comunque di Anderson. La cinematografia è piena di date mancate, assolutamente. Tipo 2001 Odissea nello spazio. Come Ritorno al futuro. Ma c'era questa cosa, noi questo argomento l'abbiamo trattato tante volte in Quando eravamo futuro, quando Carlo dice pure, no? Cioè le nostre professoresse a scuola dicevano: ah, perché voi vi immaginate che nel 2000 saranno le macchine volanti. In effetti c'era un momento in cui si pensava che nel 2000 sarebbero state le macchine volanti, che poi in realtà, cioè nel senso, la tecnologia ha preso altre ramificazioni, in realtà alcune cose si sono realizzate, altre non si sono realizzate, o non si sono realizzate come le immaginavamo noi, no? Che è anche diverso dal non essersi realizzato, no? Cioè nel senso, comunque il mondo dagli anni 80 al 2000 è profondamente e radicalmente cambiato, c'è proprio un cratere in mezzo, no? Ciononostante noi abbiamo sviluppato negli anni, per esempio, una sensibilità e delle tematiche che la fantascienza negli anni 70 già incominciava, no, ad ammiccare, quando in generale la gente ancora non c'aveva questa sensibilità, perché uno dei presupposti, al di là della base stabile sulla Luna, missione verso il pianeta meta, era il fatto che comunque la Luna poi alla fine era una discarica, cioè era un deposito di scorie nucleari. E quindi si faceva già attenzione a questo tipo di problematica, vista l'energia nucleare come fonte di impotenza e limitato potere, quello che è, però allo stesso tempo anche una forza distruttiva incredibile, tant'è che ovviamente l'incipit della storia è che la Luna a un certo punto gli esplodono questi depositi di insomma, scorie nucleari, portando, e qui ovviamente insomma viene la parte molto più esotica, diciamo fantasiosa, perché serve come pretesto, come incipit pretestuoso per raccontare una Luna che se ne va in giro per l'universo, altrimenti, come Carlo sa o come Asimov stesso avrebbe detto, la Luna si sarebbe... Ha scritto sull'articolo, ha detto che sarebbe esplosa frantumandosi e causando la pioggia di detriti sulla Terra. No, ma peraltro la cosa che mi aveva colpito molto è che l'escamotage narrativo che avevano trovato non era appunto stato in realtà quello dell'esplosione nucleare, quella che noi conosciamo col fungo, eccetera, no? Ma in realtà una forza magnetica sconosciuta. Se vi ricordate, nel primo episodio loro lo dicevano: ma sembra un male da radiazioni, ma non ci sono le radiazioni. Descrivono come magnetismo, cioè fanno un tecno bla bla per cui si inventano questa cosa, che però fa sì che non sia un'esplosione, ma che sia una spinta. Sì, era qualcosa di termico, magnetico, qualche parolone e via. Esatto, non è un'esplosione, ci sono le esplosioni, ma non è l'esplosione che spinge, ma è questa forza misteriosa, queste conseguenze misteriose di azioni che noi abbiamo compiuto, cioè è una sorta di monito, no? Guardate che quello che noi stiamo facendo pensiamo di poterlo controllare, in realtà non controlliamo niente, che poi è il leitmotiv di tutta la serie. Loro no, non è un'astronave, non controllano dove vanno, vanno esatto. Dove capita, vanno dove li spinge il destino. È profondamente diverso da dire prendo un'astronave e vado certo. Dove voglio io. Certo, infatti loro, pur avendo le astronavi che avevano un discreto raggio d'azione, non potevano comunque andare se era dal di fuori della portata della Luna, tant'è che loro quando facevano le esplorazioni avevano un tempo limitato, perché la Luna prima o poi se ne sarebbe andata dall'orbita, sarebbe stata a una distanza abbastanza irraggiungibile. Comunque, ecco, questa è poi la prima focalizzazione che però io ho trovato in tantissime opere dell'epoca, quindi la critica al progresso indiscriminato, quindi alla mancanza di controllo rispetto al potere che noi andiamo acquisendo, e lo sviluppo di una sensibilità ecologista, perché comunque alla fine il discorso è legato alle scorie, a quello che tu produci che è pericoloso e dannoso potenzialmente, e le conseguenze non le paga solo la Luna, ovviamente questa è la cosa, diciamo, più realistica da un certo punto di vista. Le conseguenze le paga anche un mondo che è talmente concentrato sui propri obiettivi che non si rende conto delle catastrofi che sta per creare, no? Cioè, nel senso, e questo è tutto sommato un messaggio a quello che era il periodo della guerra fredda, cioè fondamentalmente, no? Che ritornerà sempre negli anni 70 e 80 questa tematica in maniera più o meno approfondita, ma è sempre così, cioè, c'è sempre questa minaccia, no? Questa certo. Attenzione al fatto, oh, ragazzi, continuiamo così, spacchiamo tutto, insomma, e questa è secondo me la cosa che, pur avendo ritrovato in tantissime altre opere simili, io devo dire che in questo modo è trattata anche in maniera originale, come dite voi sicuramente, Claudio e Carlo, perché è probabilmente una produzione europea e ci tiene magari a focalizzare più sullo spessore che su, diciamo, sull'esteriore, ecco, diciamo così, no? Perché avrebbero potuto fa, che ne so, botte da orbi, e invece sono inventati questa modalità un po' strana, quella, con la Luna che poi alla fine se ne schizza via, e sulla Terra che rimangono tutte le catastrofi. Ecco, insomma, volevo sapere anche un giro da voi. Sì, no, io confermo quello che dicevo prima, nel senso, questa sensazione di concentrazione più sul contenuto che sull'effetto speciale, nel senso che lì è stato un bagliore di luce che ha spostato la Luna e via, no? E questa era la scusa. Poi ci metti dentro il nucleare, la parola nucleare, che in quel momento era lo spauracchio per eccellenza, certo. Esatto, e quindi ci metti dentro quello e la gente diceva, si vede, è pericoloso, vedi cosa succede, vedi tutti. Si sposta la Luna, cioè la gente ci credeva pure, anche magari che sarebbe potuto succedere una roba del genere. Asimo, che è un po' più coi piedi per terra, magari no. Dice, la Luna si spacca in 30.000 pezzi. Esatto. Però cioè, effettivamente loro, scusa, c'è Valleggi in chat, sì, che ci fa vedere il comunicatore. Esatto. Ragazzi, cioè, l'ha ricostruito lui funzionante. Io pagherei per una cosa del genere. Pagherei per una cosa del genere, devo dire la verità, cioè, nel senso, e io settimana scorsa l'ho toccato anche. Beh, attenzione, l'aveva lì sotto mano. Il comunicatore o Valleggi? Perché insomma, tutte e due. Valleggi, con tutto il rispetto, preferisco il comunicatore. Esatto, anch'io, esatto, la stessa cosa, insomma. Il colloquio è bellissimo, comunque poi l'ha fatto veramente bene, preciso, perfetto e funzionante. Neanche quelli della serie erano funzionanti, erano funzionanti, ma avevano il filo. Erano funzionanti, questo qua invece no, anch'io sapevo che fili. Anch'io sapevo che era funzionante, ma soprattutto si vede che sono funzionanti, perché non è che si vede, facevi, capito, il compositing dell'immagine. Cioè, lì è proprio un'immagine del televisore che si accende, cioè si vede proprio, insomma. Solo che viaggiava con quello, era solo un monitor praticamente, questo era attaccato a uno scatolotto che magari era da qualche parte in giro. Lì era nascosto, faceva l'inquadratura stretta, eccetera. Era sempre stretta l'inquadratura, infatti. Però se vuoi vedere, c'era questa cosa un po' tipica della fantascienza. E se voi guardate, Marco ci dice: nel 2022 abbiamo dei super computer in mano e motori a scoppio sotto il culo. Quindi era quello che conferma. quello che dicevi tu prima, Simone. Un'evoluzione diversa da quella che ci aspettavamo. Esatto, sì, siamo andati da una parte piuttosto che dall'altra. Comunque, il discorso è quando, per esempio, anche i monitor a parete, no? No, a parete, poi visto loro c'erano quella specie di mobili, no? Dove c'erano tutti i marchinari e c'erano tutti i monitor. E quando loro comunicavano tra persona e persona, anche usando i monitor quelli a parete, cioè loro guardano il monitor. Cioè, se voi ci fate caso, questa è una cosa tipica che abbiamo visto nei cartoni animati e nelle serie di fantascienza, come se il monitor, oltre a trasmettere l'immagine, cattura l'immagine, no? È una cosa un po' assurda, certo. No, questa cosa. Però, sì. Però non è così assurda se ci pensi, cioè lì erano telecamere passive, nel senso che se ci sono alcune puntate in cui si in Forza Vitale, in cui il tecnico Anton Zorev fugge attraverso i corridoi della stazione e tu vedi proprio loro che in sala comando guardano lui che fugge sui vari monitor e entra da una telecamera ed esce dall'altra perché è passato davanti a una di queste torrette e si vede proprio il percorso, per cui c'erano, era come se fossero tutte telecamere, erano ricezione e ripresa. Sì, sì, no, no, ma il concetto è chiaro, cioè nel senso, però voglio dire, lì è veramente l'esercizio di grande fantasia, no? Da un certo sì, punto di vista, certo. In un'epoca in cui, tant'è che, e qui voglio sentire sia Claudia, che magari poi ha letto anche i libri, quindi magari ci sono approfondimenti diversi, che Carlo e Davide, che magari c'ha un occhio un po' più tecnico, che la fantascienza di Spazio 1999 era veramente fantascienza più in senso esotico, no? Cioè più fantasioso che tecnicistico, tant'è che noi il tecnicistico nella fantascienza nelle serie l'abbiamo visto in Star Trek, ma dopo, non nella prima, dopo, non esatto. Nelle prime serie, perché anche serie di Star Trek erano vaccate, buttate lì, cioè nel senso sì, sì, anche la data stellare era inventata a caso all'inizio, quindi. Esatto, no, nel senso, e invece ecco questa cosa del tecnicismo che dopo magari in alcune narrazioni di fantascienza ha preso il sopravvento, mentre invece su Spazio 1999 in effetti c'era grosso esercizio di fantasia che poi alla fine in un'epoca come quella, quando tu sei giovane, è quello che cerchi, cioè cerchi l'immaginifico, no? Cioè, cerchi il fantastico. Claudio. Certo, vabbè, cioè, ovviamente c'è una forte opera di sospensione dell'incredulità, no? Per cui alla fine tu lo vedi comunque come un universo coerente e credibile, come il fantasy, no? Per cui è una base pseudoscientifica più che scientifica, ma è ovvio che se dovessimo fare un'opera scientifica, allora a quel punto, cioè, forse l'unico film che ho visto effettivamente in tutta la mia vita è The Martian, l'unico che è realistico. No, ce ne sono altri, beh, però sì, è un altro tipo di Interstellar, beh, non, no. Beh, Interstellar no. Okay. No, io non mi so, no, lo dicono tutti, io non mi so mai, allora, io no, adoro no, quel no. Film, ma lo adoro per un'altra ragione che non è la parte scientifica, cioè nel senso, ecco, infatti, perché beh. secondo me la gente non ha capito, io ho visto gente uscita in una fisica quantistica, secondo me la gente non ha capito il senso di quel film, cioè non ha capito che è un film sulla perdita di speranza, sull'abbandono, cioè ragazzi, cioè è la storia di un padre che abbandona la figlia, cioè nel senso, io non riesco ad andare oltre quella scena lì, capito? Cioè, nel senso, è lui che la ritrova 100 anni dopo, vecchia, su, cioè, incredibile, ragazzi. Cioè, c'è una poesia là dentro, no? Poi dopo tu ti puoi soffermare su tutti gli errori tecnici, ci possono essere sti cazzi anche, no? Perché poi no, torniamo però, qui a Spazio 1999. Tu, ecco, 1999, comunque l'universo aveva una sua coerenza. Soprattutto nella prima serie, nel senso che appunto loro erano in balia di tutta una serie di eventi, però se tu vai a vedere come filo narrativo all'interno della serie, aveva una sua coerenza, cioè la Luna veniva attratta gravitazionalmente dai pianeti, ma aveva la sua orbita, quindi poi proseguiva, subiva delle accelerazioni, dei rallentamenti, incrociava un buco nero e questo la faceva saltare dall'altra parte della galassia. Vabbè, purtroppo sta cosa, il sole nero, bravo, che io vorrei incontrava se stessa un doppelganger, sì, tra l'altro non vorrei dire, ma Jerry e Sylvia Anderson, mi sembra l'anno prima, avevano prodotto un film che si chiamava Doppelganger, sì, che era la terra che incontra un'altra terra, un'altra se stessa, quindi sì, l'ho visto. E quindi insomma era un universo con una una fantasiosità enorme, ma con una coerenza. Ma coerente, sì, sì, no, ma questo è vero, eh? Cioè, non fa una cioè, tu comunque guardavi, e poi sempre considerando che eri giovane, molto giovane, guardavi tutto quello che era dentro Base Alfa, e per te era non solo credibile, ma incredibile, cioè, nel senso, poi dopo ci arriviamo anche a questo, però insomma. Una tematica che ritroviamo, oltre a quella ecologista, magari che troviamo in tanta della fantascienza, insomma, di quel periodo, è comunque tutta la filosofia umanista, no? Cioè, quindi il fattore umano, l'equazione umana, no? Che abbiamo sentito tante volte, da Asimov a Star Trek, a insomma, vattela a pesca. E qui la riportano, diciamo, forse. Anche qui, guardato a posteriori, forse lo riportano anche troppo, come posso dire, legato poi, ecco, magari alla cultura di Star Trek, no? Perché questa è una cosa che noi poi dopo abbiamo visto posteriormente, che insomma sono tematiche che uscivano anche da là. Però sono tematiche che erano importanti, perché noi andavamo a raccontare, noi nei confronti dello spazio, dell'ignoto, dell'esplorazione dell'incredibile, dell'impossibile, però poi il fattore fondamentale era sempre la parte umanista, quindi l'uomo in quanto capace di, che questa è la cosa secondo me più affascinante. Non so, Claudia, Carlo e poi Davide. Sì, l'uomo come creatura umana, con le sue emozioni, con i suoi difetti, l'uomo che può lavorare con le macchine senza diventare una macchina. E poi c'è anche un accenno del rapporto uomo-macchina con Kano, che ha un sensore nella testa che si può collegare direttamente, sì, al computer, sì. Tutti questi vari tentativi di vari alieni di rendere l'umano senza emozione, di privarlo di quello che sono le sue aspirazioni, i rapporti, per vivere in una modalità che non è la nostra, perché noi abbiamo bisogno delle emozioni, delle sfide, anche in un certo senso della violenza e della morte fanno parte della nostra vita, no? E tu ci togli tutto questo, diventiamo dei robot. E quindi la profonda umanità e l'amore per l'umanità c'è qui, e questo secondo me è molto bello, perché poi è una delle caratteristiche molto importanti della serie. Sì, anche perché poi, vengo anche da te Carlo, e il fatto che, cioè nel senso, come abbiamo detto, magari queste sono tematiche che ritornano molto in un certo tipo di fantascienza, però alla fine in un contesto come Spazio 1999, dove c'è questa cosa della deriva, no? Dell'odissea, della perdita, della speranza anche in qualche maniera, perché non puoi tornare indietro, cioè, come abbiamo detto, non sei su una nave stellare che tu puoi governare. Ecco, secondo me il fattore umano è anche, diventa un legante, no? Cioè, nel senso, comunque diventa il motivo del quale essere orgogliosi per riuscire a superare anche i propri stessi limiti, no? Sì, ci sono molte cose che tu l'hai scritto anche nel documento, comunque, tanto deriva dai concetti New Age che giravano molto in quel periodo della metà degli anni 70, e anche il concetto, l'hai scritto tu stesso nel documento, del potere della mente, che l'evoluzione dell'uomo in pura energia o puro pensiero, no? Era una cosa che comunque il potere della mente e rispetto a quello che era la, diciamo, la visione disumanizzata, insomma, dell'umanità, era qualcosa che era presente e portava. In Star Trek c'è questa visione, con la visione dei vulcaniani di Spock, no? Governati dalla logica rispetto agli umani, e poi il fatto che lui è metà e metà e lo portano verso l'umano, insomma, c'è tutta questa, è trattata in questo modo. Lì invece, in Spazio 1999, è trattata anche con quello che incontrano, no? Le civiltà che incontrano nel viaggiare. E la proposizione dell'evoluzione della civiltà con questi concetti di New Age rispetto all'abolizione dell'emotività, no? Come questo è un aspetto importante, in effetti, perché Poi l'integrazione interculturale, anche razziale, che c'era già, cioè si prendeva una civiltà evoluta che andava in questa direzione, una civiltà evoluta che comunque viveva con concetti, diciamo, umani, ecco. Non so bene spiegarlo, magari. No, però cioè, la cosa che trovo interessante, qui vengo anche da Davide, che magari poi ha visto anche altre situazioni fantascientifiche, cioè altri contesti di fantascienza, che spesso e volentieri nella fantascienza, e Spazio 1999 non fa eccezione da questo punto di vista, c'è questa doppia visione della civiltà evoluta, no? Cioè nel senso, noi uomini che incontriamo la superciviltà, no? La superciviltà ha due vie. Cioè, o forse anche tre, due vie. Una, hanno completamente scavalcato tutti i concetti di violenza e di sopruso, di abuso uno dell'altro, l'obbe genere, che vivono assolutamente in pace. La tua presenza è un elemento di disturbo all'interno di quel contesto, perché rischieresti di rompere quell'equilibrio. Altrimenti c'è la società che è talmente evoluta che si è liberata dai propri, e qui torniamo anche un po' al vulcaniano, si è liberata di tutto quello che è la parte emotiva dell'essere vivente, raggiungendo quindi uno stato di pacificazione, proprio perché comunque non c'è il contrasto dovuto all'emotività, no? Però poi, e qui ritorniamo all'equazione umana, in entrambi i casi, quindi facciamo un attimo questo paragone tra Star Trek e Spazio 1999, comunque alla fine è quella che vince l'equazione umana, perché anche Spock, in tantissime situazioni, sì, che lui sdegna, cioè rimane sdegnato a volte da quello che è il comportamento umano, poi alla fine dei conti lui comunque dice a noi, cioè noi la logica è il presupposto della conoscenza, non è il suo compimento, cioè dice a noi comunque ci manca quell'elemento che voi ci avete forse in maniera troppo preponderante, quindi c'è la soluzione nel mezzo, dobbiamo essere più evoluti ma allo stesso tempo dobbiamo essere umani, c'è esatto, una sorta di sì, no, in tutti i film di fantascienza dove ci sono gli umani che vanno da qualche parte cercano sempre di far vedere che il che noi siamo meglio di altri, quasi sempre, no? Cioè questo anche in modo non diretto ma indiretto. Io adesso di Spazio 1999 ho visto alcuni episodi, non ne ho visti molti, ne ho visti due o tre più importanti, probabilmente perché era una selezione che aveva già fatto qualcuno, e ho visto l'episodio di quando hanno scoperto Maya, quindi eravamo già nella seconda stagione, produzione americana, però anche lì andiamo su un pianeta dove c'è questo tizio cattivone che sicuramente non è umano, anche se la sembianza è umana, e dove loro arrivano cioè scoprono che lui è uno che non gliene frega niente, lui risucchia le persone per cercare di far andare avanti il suo pianeta, e la figlia che è lì pensa che lui sia un padre adorabile, come tutte le figlie probabilmente, e però loro applicano sempre la loro regola umana su tutto quello che vedono, sulle persone che vedono lì che stanno morendo, cercano di far capire alla figlia che a modo umano, in modo umano tra virgolette, che poi se vogliamo in modo sensato, ma in quel contesto non esiste il sensato o no, loro fanno il loro. E comunque l'impressione è sempre sì, quella di, cioè l'impressione, non l'impressione, in quasi tutte le serie dove ci siano alieni o no, noi cerchiamo sempre di spingere il nostro modo di vivere, di pensare, che poi comunque sono sempre modi di pensare utopici tra virgolette, no? Perché anche Star Trek, gli umani vivono in un mondo sulle nuvole, cioè che non esiste, come anche qua sono tutti bravi, gentili, a parte magari all'inizio dove si vede il tizio. Beh, insomma, tutti gentili, no, insomma. Loro, per quel poco che ho visto sul primo episodio, si vede ovviamente, visto che quella base sulla Luna è una roba commerciale anche, e quindi girano dei soldi, quando dobbiamo fare questa missione, dobbiamo archiviare altro materiale radioattivo perché giù sulla Terra ne stanno consumando tantissimo, per cui ragazzi muovetevi e datevi una mossa, c'è bisogno. Sì, più di, politico che commerciale, cioè nel senso, sì, comunque la spinta di dover fare a tutti i costi quelle cose che c'è bisogno di fare indipendentemente dalla sicurezza, se no non ci finanziano più, esatto, eccetera, sì, eccetera. Vabbè, perché lì comunque la missione scientifica veniva prima di qualsiasi cosa ed erano disposti praticamente ad accettare i compromessi compromessi politici erano quelli ovviamente di fare la discarica, fondamentalmente. Esattamente. Però poi alla fine noi poi dopo ci siamo ritrovati a dover andare in giro per il mondo, per l'universo, ovviamente ci proponiamo sempre come i più bravi, i più belli del mondo, che fanno le cose più fatte bene, insomma siamo noi quelli che conosciamo la verità, ecco. Allora Claudia, per esempio, la rappresentazione anche un po' esotica, un po' naif della fantascienza degli anni 70, del viaggio nello spazio e nel tempo, no? Cioè, nel senso, questa cosa di rappresentare il tempo come una sorta di dimensione quasi extra universale, cioè nel senso qualcosa che ha a che fa più col pensiero che con il tempo stesso, no? Con la fisica. Ecco, questa è una cosa che noi troviamo spesso, e Spazio 1999 non fa eccezione, ma secondo me con un suo stile, cioè nel senso gli dà un suo ritmo a sta cosa. Sì, sì, assolutamente, con degli episodi bellissimi come Un altro tempo, un altro luogo, come il discorso anche del ritorno alle origini, cioè la fine della prima serie si chiude con i due personaggi che restano da soli sul pianeta, che sono il novello Adamo ed Eva, come se fosse un ritorno alle origini, all'Arcadia primigenia, come se l'umanità avesse fatto un giro nel tempo per tornare là dove è nata e rinascere di nuovo, no? Che è una visione davvero molto, molto interessante, molto New Age. Molto New Age. Perché? Sì, perché era New Age, ragazzi. Esatto, con la comunicazione col passato. Ci sono molte cose New Age. C'è una puntata della seconda serie che a me non è che è piaciuta moltissimo, la seconda serie, che però ha anche delle cose interessanti, che è Tora Tora. Ricordo. Qui loro c'è un gruppo di ragazzi che si danno a fare seduta spiritica, seduta di comunicazione con medianica, per capire dove sono, dove stanno andando nello spazio, per vedere i pericoli che gli vanno incontro, eccetera, fino ad impazzire. Quella è estrema, una cosa estremamente anni 70, molto forte, che però era vista in modo abbastanza naturale. È naturale che uno voglia avere una spinta. Cioè, a un certo punto Conning dice proprio qualcosa tipo: certo, ma perché voi siete giovani e quindi dovete esplorare queste vie, no? E tu dici: ah sì, veramente? Ok, va bene. Così. Dell'LSD, dove la trovo? Esatto. Così, no? Sì, è normale. Che poi la seduta spiritica c'è anche nella prima stagione, quella là col tizio italiano che sì, poi... Sì, sì, bravo, è vero, vero, che diventa... Con le piante. Sei il fantasma di se stesso ancora prima di morire, no? Sì. Quella è forte, va. È vero, c'era anche lì. Tra l'altro ci sono alcuni elementi a volte... leggermente orrifici, se tu consideri. Sì, quello e l'altro, quello del pianeta di ghiaccio. Brava, Madonna, esatto. Santa, quando lui muore e rimane di putrefatto in un secondo. Beh, sì, comunque sì. Anche io avrei urlato al posto della Russell. Sì, sì, però tu sei una scienziata, diciamo, specializzata in quel tipo di... Cioè, nel senso, non me l'aspetto. Più che altro rimane la sorpresa, no? Come cazzo, questo mi stava a parlare adesso e è diventato un corpo putrefatto. Insomma, sì, dai, devo dire che insomma, dei tocchetti ogni tanto c'erano, ma c'era pure quello del mostro, cioè del... Non mi ricordo, c'era... Ah, sì, lo pseudo tipo Alien. Allora, secondo me... brava, la puntata che insomma, secondo me... Cioè... Sì, adesso mi deve venire in mente il titolo, se no impazzisco. Allora, secondo me, quando hanno fatto Alien Covenant, hanno pensato a quello. Può essere. Interessante sta cosa. Ragazzi, secondo me... l'hanno preso da lì. Non, interessante questa cosa, non avevo associato, sai, veramente non mi sarebbe mai venuto, però me lo vado pure a riguardare quasi per farmi vedere. Comunque, del male. Sapete chi era uno degli sceneggiatori maggiori della serie di Spazio 1999? Vadi. Johnny Byrne. Quindi ci dovrebbe dire qualcosa? Vabbè, è uno che ha scritto un miliardo di ha fatto Doctor Who, un sacco di episodi, ha fatto un sacco di cose, diciamo, inglesi, vabbè, non lo conoscete, quindi inutile. No, non lo conosciamo, però c'è anche un'altra tematica, come poi avevamo un po' anticipato prima. Quindi, irlandese, comunque. Era quella del fatto delle civiltà, no? La civiltà che arriva a quel livello evolutivo tale da diventare pure energia o puro pensiero, no? E questa è una cosa che, ribadisco, purtroppo le tematiche a volte sembrano un po' ridondanti, però per esempio c'è una puntata, Spazio 1999, quando loro incontrano il pianeta che poi lui praticamente viene catturato da lui, il comandante viene catturato dall'astronave, dove c'è dentro la regina di sto popolo che stanno per trascendere in spirito, praticamente. Esatto, il loro pianeta deve toccare la luna, esatto, per dissolversi, e nessuno gli vuole credere, esatto. Vogliono farle esplodere delle bombe nello spazio per... esatto. Claudia, qualcuno dice il dominio del drago, potrebbe sì, essere... Sì, bravo, il dominio del drago, era quello l'episodio. Adesso questo qui, tra l'altro l'ho visto 3 giorni fa, perché appunto ne ho riguardati alcuni velocemente, ed era tra questi quello della, che diceva Simone sulla regina misteriosa, e però non riesco a ricordarmi il titolo. No, vado a vedermi. Si chiamava proprio il pianeta di ghiaccio, comunque, se non mi sbaglio, dove c'erano comunque questi terrestri, anche loro si erano dispersi nello spazio, la missione che doveva arrivare su Urano, su Nettuno, non mi ricordo. Allora, insomma, esatto, quello era quello sul pianeta di ghiaccio, dove alla fine lui muore lasciando un bel cadavere di fianco alla vettura. esatto. Poverino. Poi quello italiano e inglese è un casino, comunque, sì. Sì, infatti. Di questo poi dopo ne parliamo, perché secondo me, ribadisco ancora, che secondo me la localizzazione, come in tante altre opere, secondo me ogni tanto fa dei danni. Ha fatto dei mischioni incredibili e vabbè, insomma. Comunque, vabbè, dai. Questa tematica c'è e ritorna in alcune puntate, e però lo fa, secondo me, in modo originale. Non la fa sempre la solita maniera alla Star Trek, dove questi trascendono, diventano super potenti, o i Q o i via dicendo. Insomma, in qualche maniera c'è sempre un... forse, ecco, e questo è forse è il motive un po' della serie, il fatto che comunque poi la luna che vaga nello spazio, c'è, cioè, un po' sta cosa del fatalismo, no? Cioè, nel senso, comunque alla fine le cose devono succedere. Anche in quella puntata, quando la regina gli dice: Koenig, tu non lo sai, ma dall'inizio dei tempi tu hai questo compito, la tua grandezza è cioè, nel senso, va al di là di quello che tu possa comprendere, perché tu semplicemente in questa occasione in cui il pianeta e la luna si devono toccare, tu non devi fare un cazzo, cioè, nel senso, praticamente l'unica cosa che devi fare è non fare niente, ossia convincere la base a stare lì, aspettare che c'è questa collisione. Ovviamente non gli crede nessuno, col pretesto delle radiazioni, che lui aveva l'allucinazione e via dicendo. Però ecco, insomma, quella è un modo originale di aver trattato una cosa relativa a un popolo che sta per trascendere, capito? Quindi... Rotta di collisione è il titolo dell'episodio. Rotta di collisione. La regina si chiamava Arra. Arra, brava. Vabbè, l'ho letto, mica me lo sono ricordato. Sì, l'ho trovato, ma non ho dovuto andarlo a leggere. Perché ok, trovato. Che poi era una vecchia lei, poi, fondamentalmente. Sì, una donna anziana. Sì. Ecco, anche lì. Vedi, però la differenza fra me e tu, sei garbata, dici donna anziana, e ho detto è una vecchia, insomma. Sì, se fosse stato Star Trek, mi sarei immaginato una mega gnocca senza veli. Sicuro, senza meno. Vabbè, è vero che gli anni 60 erano già diversi dagli anni 70, comunque anche questo in qualche maniera, gli anni 60, cioè Star Trek subisce anche il 68, subisce in senso anche positivo, volendo, no? quindi tutta questa cosa del denudarsi, diciamo così, insomma, del mostrarsi è un po' frutto anche di quello, no? Diciamo, poi c'è quella differenza che abbiamo comunque detto prima. Un altro tema importante che poi abbiamo visto non tantissime volte, ma l'abbiamo visto sempre trattato sempre un po' nella stessa maniera, che è quello appunto del buco nero, no? Cioè, noi avevamo questa immaginazione, no, nella fantascienza, del buco nero come una sorta di ponte che portava talmente... Stargate, sì, un wormhole, un insomma che poi tra l'altro nella serie viene chiamato il Sole Nero, e bisogna vedere se anche lì se è un problema di traduzione o se veramente nella versione originale loro dicono Black Sun piuttosto che Black Hole, no? Però ecco, loro hanno questa cosa che affrontano quest'astro praticamente che oramai se li sta risucchiando. Sì, lo dicono The Black Sun nella serie originale. Ok, va bene. L'ho appena trovato. Bene, no, mi fa piacere. Perché comunque anche rispettare, no, il fatto... Però, cioè, pure usa questi termini, insomma, che sono un po' strani, no? Però tu dici, perché loro sembra che non sappiano bene che cosa sia un buco nero, no? In teoria... Cioè, voglio dire, avrebbero dovuto saperlo, no? Però alla fine si avvicinano a questa cosa, cercano di proteggersi con un campo gravitazionale completamente inutile, no? Cioè, nel senso, non c'aveva nessun senso, un buco nero, cioè se te cattura, basta, ciao, arrivederci e grazie. E loro, grazie a quel buco nero, tra l'altro, insomma, in qualche maniera riprodotto anche un po' in trasparenza, è anche carino come tipo d'effetto, pure visivamente era interessante, si ritrovano praticamente dall'altra parte de non si sa dove, perché non pure lì il termine sistema solare, galassia e universo vengono molto mischiati, no? Diciamo che è proprio tutto una cosa dietro l'angolo, cioè, sì, esatto. È tutto in fila. È come Voyager, Star Trek Voyager. No, è quello che io e Marco Gualdi chiamiamo l'effetto J.J. Abrams, no? Che è tutto a portata di mano. Tu t'affacci e vedi un pianeta che viene distrutto da qualcun altro. Cioè, ma come cazzo, cioè, come fa a stare così vicino? Però vabbè, così funziona, così. Vabbè, comunque ritorniamo. Insomma, questa cosa del buco nero che ha sempre affascinato, tant'è che io mi ricordo, per esempio, e qui facciamo una piccolissima digressione, il film Black Hole, quello della Disney. Che quando ero completamente diverso. Sì, però, sì, però quando io l'ho visto da ragazzino, non ricordavo la cosa misterifica, cioè proprio una cosa affascinante. Poi l'ho rivisto recentemente e dico, ma che è sta cazzata? Cioè... è invecchiato malissimo. Sì, anche a me è successo. Cosa che non dico che invecchiano male. Cosa che non dico The Forbidden Planet, che per me è un film che nonostante essere più vecchio, esatto. È un film che ancora oggi, cazzo, cioè. Sì, ma quello che dico, i capolavori li riconosci dopo tanti anni, perché non te ne rendi conto subito, no? Quando una cosa è fatta bene e nella contemporaneità ti piace, ma ti piacciono anche le cose fatte male che però vivono nella contemporaneità del momento. Quando passano, il tempo è un giudice insindacabile, cioè se tu prendi una cosa e la riguardi dopo 20 anni, 30 anni e ti accorgi che contiene ancora degli elementi validi, vuol dire che era qualcosa che aveva un valore, un visionario o comunque qualitativo diverso dalle altre cose. Cioè le cose che rimangono sono quelle cose che sicuramente poi hanno anche, per esempio, ne abbiamo citato prima, ma 2001 Odissea nello spazio, un film del 1969, l'abbiamo detto più volte, e se lo rivedi adesso non ti sembra un film del 1969 quando rivedi tanti altri film di fantascienza o produzioni di fantascienza degli stessi anni, che non hanno minimamente la stessa qualità di quel film. E purtroppo è una cosa abbastanza comune. Sì, tra l'altro c'è Vincenzo che ha scritto una cosa stupidissima in chat. Vincenzo, io tanto un giorno mi devi capitare sotto gli bracci. L'ho letto anch'io adesso. Vai. Io non la voglio leggere. No, infatti, meglio di no. No, ma tra l'altro una delle cose, per esempio, che secondo me è invecchiata benissimo, perché comunque ritornando al design italiano, europeo, eccetera, eccetera, è che comunque se tu guardi Spazio 1999, pur con delle cose che chiaramente lo identificano per quel periodo, però è bello ancora adesso come trama, soprattutto più no chiaro. Ma io parlo visivamente la scenografia, sì, è vero. Sì, devi soprassedere su alcuni punti, tipo il monitor in bianco e nero, io parlo del design. Io sono assolutamente d'accordo, se tu vedi gli interni di base Alfa, comunque oggi te lo vedi ancora credibile, tutto sommato, sono ancora attualissimi. Sì, voglio. Mentre tante altre cose di quel periodo lì sono invecchiate brutta, certo. Io la maggior parte degli arredi, delle lampade, delle poltrone, me le metterei a casa tranquillamente, perché comunque erano cose belle. I pannelli luminosi così che cambiano colore, tra l'altro non so se avete notato che cambiavano colore a seconda degli episodi, a seconda di quello che stava succedendo. Sì, sì, verde, blu, rosso, sì, come no. Una roba semplicissima. C'erano i sentimenti anche nei pannelli. Certo. Assolutamente sì. La base percepisce. E poi la cosa che secondo me è invecchiata benissimo, che è una cosa a cui la maggior parte delle persone non fanno caso, è che pur avendo degli stilemi tipici degli anni 70 nelle inquadrature, però il ritmo è assolutamente bello ancora adesso. È chiaro, ha un respiro più lento di come siamo abituati noi. Eh sì, e quello c'è sempre. E quello c'è sempre, ma non è lento fastidioso, è un lento interessante. Anche perché mo c'è un po' ritorno ai ritmi lenti nelle serie televisive, esatto. C'è un po' sto richiamo. Registicamente comunque era bello e non scontato. Allora, guarda, io lo sto guardando, ti devo dire la verità. Sai quando vedi una cosa vecchia perché comunque la devi recuperare per qualche ragione, a volte ti distrai, a volte guardi il cellulare, no, io lo guardo veramente proprio con attenzione, un po' perché comunque è vero che mi rievoca comunque anche il piacere, no, di quando lo vedevo allora, e un po' perché secondo me visivamente, stilisticamente, il design, le uniformi, cioè era tutto molto più curato di quanto poi alla fine, se vai a vedere la prima serie di Star Trek, da questo punto di vista, non beh, tanto... era anche 10 anni dopo. Anche 10 anni dopo, però è vero pure che secondo me i valori produttivi erano diversi, cioè nel senso... Sì, quello... diciamo che per l'Europa era una produzione di alto livello. Vabbè, però comunque se, rispetto agli americani... Ma infatti detto tra di noi, la seconda... A parte il fatto che, non so se lo sapete, che la scenografia era modulare, cioè... Non lo sapevo, ma me lo immaginavo. Nel senso. La scenografia era c'era scritto anche in una postilla di uno di questi libri, se non ricordo male. Praticamente loro la smontavano e la rimontavano a seconda di quello che gli serviva. La sala comando no, era sempre così. Bella. I vari corridoi e il centro medico, le varie sale, certo. La sala dei generatori, dei generatori atomici fu vista in una puntata sola, che era Forza Vitale. Tutto il resto veniva smontato e rimontato a seconda di quello che gli serviva, cioè un corridoio più lungo, un corridoio più corto, uno svincolo, un ascensore che si apre su una cosa diversa, gli accessi ai vari reparti, e le famose scritte erano degli adesivi. Tutte le varie scritte con i numeri, airlock, eccetera, erano tutti adesivi. In una puntata in cui Koenig deve sbattere fuori un alieno per intrappolarlo e farlo risucchiare fuori da uno dei portelloni a tenuta stagna, lui proprio con una cartellina di servizio toglie, gratta via l'adesivo con scritto Airlock dalla porta, lo nasconde e quando arriva l'alieno lo spinge e questo insomma viene tirato fuori, eccetera. Ma c'è una foto bellissima quando alla fine buttarono via tutto, perché buttarono via tutto, mi piange il cuore, madonna, cioè cosa questo gli americani non l'avrebbero mai fatto, per esempio. Gli erano avanzati gli adesivi. Un paio li hanno appiccicati su delle porte di servizio così. Sì, gli hanno dato fuoco per smaltire sta roba, gli hanno dato fuoco a tutto. E queste porte qui con gli adesivi appiccicati sopra sono rimaste, erano porte di servizio dei Pinewood Studios. Allora, sono rimasti lì per altri 40 anni, finché poi non hanno abbattuto tutto perché hanno ricostruito gli studi, e uno gli ha fatto una foto. Quindi ma no, ti devi portare via la porta invece di fargli la foto. Esatto, io gli ho portato via la porta. La porta intera, esatto, scusi. Sì. Scusi, questa me la prendo, tanto sta da buttare giù tutto. Gli erano avanzati gli adesivi. Cioè, ok, vabbè. Perché a seconda di che cosa dovevano metterci, scrivevano centro medico, scientifica, serra idroponica, eccetera eccetera, e anche alcuni elementi tra l'altro delle scenografie aliene, se tu fai attenzione, tornano in vari episodi, cioè li riutilizzavano, li mettevano in un altro modo, li ridipingevano, li cosavano, certo, vabbè, certo, eccetera eccetera. Questo penso parlando, sia successo in tantissime serie, comunque. Sì. Parlando comunque di Sole Nero, quell'episodio di quello del buco nero. Del buco nero è molto importante, secondo me, quell'episodio, perché anche lì, sempre ritornando nell'ottica della New Age, non so se vi ricordate che alla fine la situazione diventa quasi mistica quando lo attraversano, sì. Cioè che loro si vedono vecchi, che poi c'è il fatto che ma anche lì è il gioco dello spazio e del tempo, no? Quindi è tutto... sì, ma poi c'è quella cosa che praticamente capisci come se e viene quasi detto nell'episodio che la base alfa è intera e va perché è qualcosa che è regolata dalle leggi dell'universo che vogliono che quella base vada avanti, e infatti si ritrovano poi, e lo scrive anche Marco nella chat, che a un certo punto ritrovano l'aquila dall'altra parte del buco nero, ma quella era andata da un'altra parte e invece loro se la ritrovano lì così perché qualcosa li ha guidati verso... Beh, vabbè, ma come abbiamo detto base. Successivamente, precedentemente, quando abbiamo detto che Arra lì, la regina, alla fine dice a lui che lui era esattamente dove doveva essere, perché questo era il suo compito nello spazio del tempo sin dall'inizio dei tempi, quindi cioè, alla fine probabilmente c'era anche una connessione, no, su questo tipo di discorso. Tra l'altro sì, Davide, fa parte della trama, diciamo, ecco, tra l'altro Davide si stupisce, per esempio, cioè nel senso si stupisce, cioè lui dice, per esempio, ha notato il fatto che elementi più sofisticati tipo la prima direttiva non esistono, cioè nel senso lì chi incontravi te fregava un cazzo. Allora, partiamo da un presupposto: innanzitutto Star Trek è molto più nel futuro, no? Dove c'è una società costruita già nel futuro, invece questi è gente che è nell'Odissea, cioè proprio la classica Odissea epica, insomma greca, però è rapportata nello spazio, e quelli che loro incontrano alla fine sono tutti più evoluti di loro. Cioè, sono loro i stronzi, capito? Che alla fine non sanno fa niente, perché gli altri sono tutti più evoluti di loro, no? Da questo punto di vista. Claudia, stai dicendo qualcosa? Sì, non solo sono più evoluti di loro, ma gli alfani proprio hanno una passività nel loro percorso, mentre molto spesso gli alieni sono in grado di muoversi autonomamente tra un pianeta e l'altro, una galassia e l'altra, e sono loro la parte attiva. Nella maggior parte degli episodi, cioè arrivano con le astronavi e cercano di distruggerli, li minacciano, li conoscono, eccetera, eccetera, mentre gli alfani no, sono comunque in balia della loro zattera, il loro destino è legato a questa zattera, il loro tentativo è quello di trovare una terra a cui approdare, sono dei naufraghi fondamentalmente. Sì. E io l'unica cosa che posso dire su riguardo al discorso della prima poi Davide stava di qualcosa No, io stavo dicendo una battuta del tubo, perché quando ho sentito per la prima volta Alfani non so perché ho detto ma che vuol dire, no, quello di Berlusconi, dici. esatto diciamo, cosa, perché Alfani, che brutta parola, sono che i abitanti di Alfa, no, dice, gli Alfani in realtà sono praticamente un mix tra Alfano e Fanfani, per esempio, cioè, nel senso sì, no, io pensavo più da gli Alfani simili ad Alfano, i derivati esatto, di Alfano, esatto. bello bella Dai, battuta, vai Carlo. No, dicevo che la prima direttiva anche lì non esiste, molto probabilmente è un'ipotesi che faccio, ma ci può stare, perché la comunque fa sempre riferimento al fatto che è una produzione europea e non americana, perché almeno io so, almeno credo che si dica così, e almeno penso di ricordare che la prima direttiva in Star Trek fu inventata da uno dei produttori rifacendosi al fatto che gli americani stavano interferendo nella guerra del Vietnam. Esatto. E quindi disse: beh, se noi interferiamo nelle civiltà straniere, andiamo a fare qualcosa che invece non dovremmo fare, no? Cioè essere coinvolti in una guerra che non è nostra, andare a rompere il bar, che è un po' quello che hanno sempre fatto gli americani, insomma. Con il Vietnam ci fu anche quel movimento contrario negli Stati Uniti, proprio al coinvolgimento degli americani nella guerra del Vietnam. Certo. E quindi da lì poi è nato il concetto della prima direttiva applicata, di dire le civiltà si devono evolvere da sole, noi che siamo più avanti non dobbiamo andare lì. Poi nella serie originale si chiama Ordine Generale 1, poi tra l'altro non è una cosa del genere, insomma. È vero, ma perché loro partono... In italiano però in Ordine Generale 1. Ah, ok. In inglese era già prima direttiva. Ah, ok. Quindi, loro partivano comunque dal presupposto di essere superiori, questa è la differenza. Esatto, invece noi no, e quindi noi a questo no, punto dal presupposto esatto. di essere inferiori tecnicamente sempre e comunque e sicuramente diversi socialmente, perché esatto, appunto di solito esatto. si vai a rapportare con creature più evolute. Infatti era quello che diciamo, no? Che comunque alla fine su Spazio 1999 gli altri erano quelli evoluti, cioè noi eravamo quelli inferiori, che per però vincevamo perché usavamo l'equazione umana. Cioè. Esatto, sarebbero stati loro a dover avere la prima direttiva nei nostri confronti. Esatto, bravo, noi, se ne fregavano. Allora, gli elementi esotici di Spazio 1999, iniziamo col fatto che la Luna viaggia a velocità superluminali, e qui insomma è inutile sta a dire altro, insomma, nel senso. Ma sì, ma infatti usano poi la scusa anche del buco nero per quello, però vabbè, sì, cioè, comunque è tutto fantasia lì. Vabbè, ogni tanto abbiamo cambiato completamente il settore della galassia. Esatto, così. No, ma il problema è anche qui, poi bisogna sempre vedere quanto ha influito la localizzazione, perché si fa molto meno riferimento al termine galassia quanto più a universo conosciuto e oltre. Poi sta cosa dell'oltre a me mi ha sempre fatto impazzire, cioè nel senso, c'è un universo oltre, capito? Ma che cazzo, vabbè, comunque ecco, queste sono un po' le cose un po' più esotiche, però io infatti, ma questo succedeva in tanta fantascienza, si faceva una grande confusione tra i viaggi interstellari all'interno della galassia, i viaggi intergalattici, oppure sono entrato in un nuovo sistema galattico e chi sei io, cioè vabbè, comunque vai, scusa. Ma guarda che comunque ancora noi adesso iniziamo ad avere una vaga percezione di quanto sia piccolo il nostro sistema locale rispetto allo spazio. In realtà, per assurdo, forse in quegli anni lo spazio lo avevamo come qualcosa di molto più vicino, appunto era tutto vicino, tutto allineato, era tutto possibile. Adesso con gli strumenti comunque che abbiamo adesso di conoscenza ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente esatto, proprio questo. Vabbè, probabilmente allora la percezione anche a livello di uomo comune probabilmente era un po' diversa, cioè avevamo una visione dello, ma c'era anche, se studiava anche meno a scuola questa cosa, perché comunque sì, io certo. Geografia astronomica è apparsa a un certo punto, cioè non è che c'è sempre stata, per esempio, no? Io mi ricordo anche questa cosa al liceo. E un altro elemento, insomma, che poi alla fine purtroppo risente un po' anche della narrativa, diciamo, anglosassone da questo punto di vista, che c'è sempre il discorso dell'antagonista, cioè ogni puntata è sempre lo scontro contro qualcuno, cioè nel senso, e a volte questa cosa nella sua ciclicità diventa un po' ridicola, soprattutto perché se ci fate caso in un episodio muore almeno una persona dentro Alfa, il sì. che lo rende fastidioso, ma questo lo pensavo anche quando ero più ragazzino, perché non è che è Star Trek, appunto, che muoiono le magliette rosse. No, muoiono le magliette rosse, ma poi arriva il ricambio, cioè comunque arrivano sì. nuovi cadetti, nuove cose lì, cioè a parte non si è mai capito, quante persone ci stanno dentro Alfa, no? Circa 300. Dicono dei numeri precisi a volte anche. 300 persone, di cui ne muore una puntata. Alla fine della prima stagione so già la metà, insomma, nel senso. E sullo stesso argomento aggiungerei anche una roba che però diremmo dopo, sulle aquile. Ogni episodio muore un'aquila, si distrugge un'aquila, e quante cacchio ne avevano? Vabbè, quelle le ricostruiscono, ci può pure essere. Erano 11, ma loro avevano un hangar per ricostruirle sotto. Ti dico, questo l'ho letto dei libri dove lo spiegava, che praticamente anche le aquile erano modulari. E quindi avevano un tot. Sì, quello è vero. Vabbè, quello un po' si percepisce. Le numeravano da 1 a 11 in tutte le inquadrature in cui loro fanno l'operazione Esodo, che lo fanno in 6-7 puntate, poi tornando indietro, quello che è. Quando le vedi inquadrate tutte insieme, io in un paio ho provato a contarle, sono 11. No, no, era perché io vedo che ogni episodio ne perdevano una, cioè erano sulla Luna, ne avevano un tot, e questa Luna mo se n'è andata, e dice, mo chi gliele dà le acque? Cioè, avevano la stampante 3D e esatto. Le rifabbricavano. Beh, no, no, comunque si lascia intendere il fatto che loro erano autosufficienti da questo punto di vista, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista delle costruzioni. Mi dirai, a un certo punto, i materiali dove li trovavano, questo ci può anche sta, però voglio dire, è appunto, fa parte un po' di... La Luna è comunque un pianeta, quindi alla fine la voglia minerali, tu dici, insomma. Esatto. Sì, così cominciavano anche già a distruggere la Luna, già era piena di roba radioattiva e poi gli tolgono e gli smontano. Sì, ma le radiazioni non facevano niente, un po' così come cosa vuoi che facessero, questo per è uno dei temi. Per esempio, anche se è presente la tematica dell'Odissea, appunto, ovviamente, inevitabilmente, quindi umani dispersi e praticamente unici esseri di quella specie, senza possibilità di ritornare in contatto con altri esseri della loro specie, questa tematica è presente, però non viene mai approfondita in senso grave, cioè nel senso, comunque, il senso veramente di disperazione da questo punto di vista, perché, cioè, voi immaginate, provate a contestualizzare oggettivamente, no? Cioè nel senso, in una condizione del genere siamo gli ultimi 300 umani di cui avremo modo di sapere per tutto il resto della nostra vita, e oltre quello non c'è nient'altro. Cioè, ecco, questa è una tematica che purtroppo, però accetto anche il fatto che non voleva essere una serie per far suicidare la gente, e quindi ci può anche sta, insomma. Ecco, che ne pensi, Claudia? Sì, io credo che in tutta la serie loro cercano uno sbarco per il loro approdo, per ricostruirsi una casa appena possono. Comunque, cos'era, appunto, quello, un altro tempo, un altro luogo, dove l'alfa alternativa era arrivata 5 anni prima sul pianeta e loro erano sbarcati, avevano cannibalizzato la stazione per costruire le loro case, le loro cose. Perché loro non potevano sbarcare, perché sennò sarebbero morti gli altri, insomma. Esatto. E loro sono sempre nel tentativo comunque di ricostruirsi una casa altrove, sono dei profughi che non potranno mai tornare indietro e che devono rassegnarsi al fatto che loro possono solo andare avanti, esatto, a cercare un nuovo Eden, una nuova casa, una nuova collocazione. E infatti si drogano poi. E infatti si danno alla droga, ci sono la disperazione. Vabbè, d'altronde, scusa, però, c'hai la cosa, come la serra, giustamente. Esatto, due funghetti, esatto. Non è che succede niente. Voglio dire, vuoi coltivi di tutto, non puoi coltivare un po'. Ma no, ma poi, oh, ragazzi, poi, ma tu immagina la giornata di... Serie... Scusa, vai. No, c'è Tony nella seconda serie che non fa altro che cercare di produrre una birra decente. No, vabbè, cioè, poi ragazzi, voi immaginate che state su una base dispersa nell'universo, cioè, dove le giornate sono comunque dei 24 ore e tu, vabbè, stai attivo per 8 ore più 12 ore, stai sveglio, quanto te pare. Cioè, ragazzi, ma che coglioni. Ma il concetto delle 24 ore non c'è più giorno, no, appunto, vabbè lì poi si regolava coi turni come in un sommergibile, la stessa cosa, cioè, non è che tu, vabbè, stai come nell'astronave, nella nave stellare, esatto, tu regoli i turni. Infatti mi ricordo c'è una bellissima puntata di Next Generation che finisce con Data che entra nella plancia e dice inizio turno di notte e si accendono le luci azzurre, cioè è una cosa che si è vista solo in quell'occasione lì, però dà il senso, no, del fatto che, dato che qui giorno e notte non esiste, lo riproponiamo in questo modo qua, insomma. Certo. Va bene. Allora, facciamo un excursus molto veloce, proprio veloce, perché stiamo andando veramente tardi, su quelle che sono le tecnologie più o meno esotiche, e facendo un raffronto sull'inverosimilità, oppure sul, diciamo, come oggi in realtà certe cose si sono trasformate, che può essere anche interessante. Carlo, sento che ridi, perché ridi? No, perché mi ricordo, cioè, stavo leggendo la parte della tecnologia e lì infatti è quella che ho criticato prima, forse l'unica cosa negativa che trovo in Spazio 1999 è che è invecchiata male, è un po' come si tratta un certo tipo di tecnologia, che lì purtroppo hanno avuto una visione non proprio, cioè, mentre nel design erano avanti, sicuramente avanti tutto il resto, per quanto riguarda la tecnologia utilizzata lì sono rimasti veramente indietro, perché i monitor erano in bianco e nero quando già c'erano i film di fantascienza con i monitor a colori, piatti, eccetera. Lì c'erano ancora i tubi catodici in bianco e nero, e quella è invecchiata subito. Cioè nel giro di io penso che lì, io penso che lì sia stata la questione proprio dei costi di produzione, perché visto sì, che la quantità dei monitor era tantissima, erano tantissime. Non lo so, lì, perché c'erano magari anche delle produzioni, si poteva trattare un altro modo. Comunque, vabbè, quella è invecchiata. E poi anche il computer, sì, il computer, come lo trattavano, era veramente una roba. Cioè, aspetta, raccontiamolo il computer, perché il computer, secondo me, allora, questo computer gigantesco, che già, voglio dire, no, nel senso, già allora la visione del computer, cose di carta, stava cambiando, esatto, dove tu praticamente facevi delle domande al computer, cioè tu non lo programmavi, tu facevi delle domande al computer e il computer ti dava delle risposte, perché tu quello che immagazzinavi nel computer, nella sua memoria, non erano dei dati, ma tu immagazzinavi delle informazioni. Quindi è come se il computer, dopo che tu gli hai messo una biblioteca di cose, gli facevi: senti, ma questa stella secondo te è più compatibile alla vita umana o meno compatibile? E lui ci ragionava sopra e ti dava una risposta, capito? E come te la dava la risposta? Col pezzetto di carta, cioè, col pezzetto di carta. Non era tanto il fatto che fosse un'intelligenza artificiale, che ci stava, cioè, no, ma a volte erano tutte a volte venivano delle scritte sul monitor, che erano delle scritte raramente riprese da una telecamera di un foglio di carta. Sì, vabbè, quello, vabbè, quello ci può anche stare, lo hanno fatto in tanti, E poi tu parli a un computer, lui ti risponde, che necessità c'è di premere dei pulsanti mentre gli parli, no? Esatto. Perché c'erano quattro pulsanti colorati, tra l'altro non è che c'era una tastiera, c'erano proprio quattro pulsantoni. Computer, perché il computer che riceveva l'interfaccia vocale era quello di Star Trek. In Alfa, in effetti, loro parlavano per far capire allo spettatore che stavano per chiedere quella cosa al computer. Ma e poi, poi spingevano dei tasti a caso, che erano i tasti del computer. Cioè, nel senso che poi il bello. Sono tutti uguali senza scritto niente sopra. Da casa. Esatto. Esatto. Ma anche i comandi del cockpit delle Alfa, se tu vedi, era pieno di sti pulsantoni tipo videoregistratore degli anni 70, però non c'era una scritta, non c'era niente, cioè. Esatto, no, ma poi tra l'altro anche gli indicatori di volo, diciamo il corrispettivo di alza, bassa, sei dritto, sei storto, con le figurine, erano fissi, erano adesivi. E c'è anche tutto sommato, no, sì. Però cioè, mi faceva più ridere, come dici tu, che questi qua praticamente tu il computer c'hai una tastiera, cioè una tastiera fatta proprio a quadrato, quindi con tutti i tasti allineati, senza nessun criterio né lettere né numero, roba del genere. Tu a memoria digitavi cose e il computer capiva che tu gli hai fatto una domanda e ti dava una risposta col pezzettino di carta. Rispondeva a voce, scrivendo anche a video su monitor. A volte è voce, è vero. A volte a voce, a volte con la carta, a volte sul video. Allora, dipende dall'importanza dell'informazione. Col coso Exodus sempre parlava al computer, sempre. Quando Exodus si svegliava, diceva: ah, Exodus, allora devo parlare, no, devo dire qualcosa. Esatto. Se no, le altre cose era sempre il pezzettino di carta. Che poi sto pezzettino di carta, se voce fate caso, era tipo la carta di credito, cioè nel senso. E a un certo punto mi ricordo, come si chiama lo scienziato, quello più anziano, no? Era quello Victor Bell. Ecco, John, qui c'è scritto tutto. Ma come c'è scritto tutto? È un pezzettino di carta. Abbiamo tutti i dati. Qui c'è scritto tutto nella puntata, lui dice. Qui c'è scritto tutto. E comincia a dire cose a raffica. Ma cazzo, ma che vista c'hai? Scusa, quanto è scritto? Poi, ragazzi, quello che è impressionante, se ci pensate, è il fatto che loro: ah, il computer dice che c'è atmosfera respirabile. Okay. Sì. Sì, e da cosa l'ha capito? Non c'erano sensori, esatto. Analisi, ah, cosa, c'erano, cioè. Esatto. Vi ricordate che li chiamavano sensori. È vero, sensori. Dello spazio profondo. Sì. No, perché il computer, no, forse non hai capito, cioè, l'immaginario su questo Alfa, cioè Alfa, Spazio 1999 era un po' arretrato, però l'immaginario dell'epoca era quello che tu il computer sapeva le cose, cioè sapeva, non sapeva era tutto, capito? Cioè, sapeva fare tutto, il computer, certo. Tu gli chiedevi le cose e lui le sapeva, non era, cioè, una forza superiore, esatto. Non c'erano cazzi questa cosa, lui la sapeva, conosceva, cioè, i nomi degli alieni, conosceva il nome dei pianeti, i nomi dei pianeti, e questa è la cosa che mi faceva: ecco, questo è il pianeta Triton, ma che cazzo dici, ma che ne sai, cioè nel senso. Ma oppure la cosa più bella è quando loro ovviamente dovevano far capire che non avevano modo di capire certe cose, diceva il computer: non abbiamo abbastanza non abbiamo inserito abbastanza dati nel computer, cioè tu lo devi riempire dati sto computer, se no non ci capiva niente. Io adesso in un episodio che non mi ricordo qual è, il computer dice: non ho la risposta fatta, è una decisione che dovete prendere voi. È richiesta decisione umana. È richiesta decisione umana. Sì, sì, ma allora io al computer non ti ho chiesto di prendere una decisione, ti ho chiesto di darmi informazioni, capito? Cioè, quello che diceva, non ho elementi per dirti se quella roba è se giusta. Puoi atterrare o no, è richiesta decisione umana, sì. Esatto. Cioè, sono cazzi tuoi praticamente. Esatto. Cavatela. Poi, se ne avete Alfa, che non si sapeva qual era la spinta propulsiva, perché c'erano sti spruzzi, che lo si avevano con sti spruzzi praticamente. E poi, io non ho mai capito, ragazzi, a parte il design che era bellissimo, cioè nel senso, sì, era molto bello. Era fantastico. Però io non ho mai capito, perché a volte sembravano il TARDIS, cioè secondo me, cioè, pure lì erano sotto effetto TARDIS, dato che era una produzione inglese, cioè se sì, c'erano un'influenza, cioè Alfa stessa era picco, ma dentro era enorme, cioè, ma come funziona questa cosa? No, aspetta. Questa la sai, grande. Allora, Alfa era costruita su più livelli, quindi non era un livello solo orizzontale, ma andava sotto fino a 10 piani. Mm-hmm. Quindi venivano utilizzate solo le sezioni che servivano, non tutta, perché era possibile anche un'espansione, quindi c'erano zone inutilizzate eccetera eccetera, quindi a seconda di quello che serviva. E poi a noi non hanno fatto vedere tutto, per esempio le serre idroponiche si vedono solo in un paio di inquadrature, non vedi mai, che ne so, le cucine, pochissimo gli alloggi privati, vero sì. Però 300 persone comunque hanno i loro alloggi, i servizi, tutta una serie di cose che non vengono mai a vedere, certo. Ma che possiamo presumere che esistano, perché però alle Aquila quanta carta igienica aveva, e questo me lo ricordo dal gioco da tavolo di spazio, non so tavolo, esatto. Chi è che l'aveva visto? No, io mai visto. Sì. Della Clementoni era il, sì, gioco, ricordo, il gioco da tavolo. Comunque avevano l'area ricreativa, per esempio, era stata fatta vedere sempre in Forza Vitale. Zoref, quando doveva assorbire l'energia, andava a mettersi sotto il solarium mentre la gente stava prendendo il sole. Nel romanzo Padoan spiegava che loro potevano avere dei problemi di carenza di vitamina D, quindi dovevano tutti i giorni farsi 10 minuti di lampada. Eh sì, quando c'è il solarium. Che andava a simulare, diciamo, l'effetto di una passeggiata sotto il sole. Sotto il sole. Che è l'unica, puntata dove si vedono le cosce, insomma. Sì, è una delle poche in cui vedi le alfane semi nude a prendere il sole. Che sono le figlie d'Alfano. Sempre per fame. E quindi ci sono tutta una serie. Quindi la base aveva questa struttura a raggiera in cui alcune strutture erano collegate appunto dai famosi tubi. Il diametro era comunque totale di 4 km, però si estendeva in profondità. Quindi, ecco perché sembrava più grande, insomma. Esatto. E le Aquile avevano la parte centrale che era modulare. Poteva essere montata a seconda di quello che serviva, una parte centrale modulare diversa, quindi sì, una parte centrale adibita al trasporto passeggeri in cui poteva portare fino a circa 30-40 persone, una parte invece addetta al trasporto, che ne so, se dovevano fare un'esplorazione scientifica si portavano anche dietro tutte le attrezzature, quindi montavano solo 8 sedili e tutte le attrezzature, oppure approvvigionamento, oppure addirittura c'era una puntata in cui facevano vedere un'aquila nuda, cioè l'aquila aveva soltanto la punta abitata, il modulo di comando, il motore in fondo, il telaio in mezzo, e la parte centrale veniva montata una gru che spostava altre cose. Nel modellino c'erano tutte queste cose bellissime. Ok, io i modellini non li avevo, però ti dico, questa roba qui le era tutta spiegata nei libri. È questo, no, che a volte dentro era più grande. Sì, no, perché poi non si capiva quanta gente c'entrava dentro, cioè, perché loro quando fanno fanno uno dei 40 persone, perché nell'operazione appunto, esatto, 11 aquile. Sono 11 aquile con 300 persone dentro, quindi erano belle grosse, insomma. E poi erano armate con i raggi laser. Soltanto questa cosa dei laser risolveva tutto, Raggio laser. Una cosa che invece mi affascinava tantissimo erano proprio sti trenini tubolari, no? Cioè, nel senso, sti cosi con i quali loro si spostavano, che tra l'altro oggi ricordano vai. La cosa pneumatica, sì, ricordano molto i prototipi dei treni di oggi, il sotto vuoto, no? Esatto. Sì. Di Star Trek. Beh, no, no, proprio, vi confesso che quando hanno inaugurato la metropolitana, quella che c'è a Milano, l'ultima Lilla, senza, la Lilla senza guidatore, io mi sono seduta davanti e mi sono sentita tanto dentro il turbo. Il turbo, beh, sì, è figo, sì, sì, immagino. Immagino che sia figo, però ecco, ricorda proprio i prototipi attuali. Cioè giorno d'oggi praticamente praticamente queste ferrovie sottovuoto con la propulsione pneumatica, quindi poi alla fine sì, sì, ma se ne parla sin dagli anni 60, vabbè, ripresa però. Da studi reali, insomma, quello era comunque sì, sì, però appunto se ci pensi effettivamente una base che comunque ha da un punto all'altro 4 chilometri e devi andare avanti e indietro velocemente, portare delle cose eccetera, 4 chilometri sono 4 chilometri, comunque un'ora di cammino, certo. Per esempio i comunicatori, no? Che c'avevano i monitor, quindi la videochiamata fondamentalmente, lo smartphone, cioè nel senso comunque il richiamo oggi a una tecnologia del genere. Poi Davide ha aggiunto anche il fatto che si usavano pure come telecomandi, cioè nel senso per aprire le porte o via dicendo, quindi anche lì un applicativo dello smartphone, cioè nel senso potenzialmente, no? Quindi una sorta di domotica aggiuntiva, no? Cioè se vai a vedere comunque, ecco, oggi le cose hanno preso una direzione diversa, però erano un oggetto che comunque in qualche maniera aveva una sua coerenza, no? Cioè nel senso molto meno esotico di quanto potesse sembrare. Sì, anche se quello molto mutuato da Star Trek, devo dire, con i tricorder e il... Ma non lo so, non lo so. Questo sembrava più vero, vero. Sì, sì, era più vicino alla nostra alla realtà, al nostro tempo. Cioè il tricorder alla fine era una cosa che faceva che invece questo era comunque un oggetto riconoscibile. Anche cioè, se io mi sono sempre chiesta il comunicatore come facevi, cioè sì, c'era un tastierino, però loro non digitavano niente quando parlavano con l'altro. Come facevi a sapere con chi ti doveva? No, non eri tu che lo dovevi sapere, era il computer era che il lo computer sapeva. Che tu che lo sapeva. Il computer sa, però, lo sa. No, perché loro facevano la chiamata, dicevano comandante Koenig, e gli si accede, ok, era vocale, raccomando vocale. Può essere, comunque difatti qua avevo commentato nel mio commento che dicevo abbiamo computer al quale si può parlare, dialogare tutto, ma le porte le Star apri Trek, col pulsante, le devi schiacciare il pulsante per aprire la porta, quando generalmente anche in Star Trek che era uscita prima la gente arrivava lì davanti e si apriva la porta. Eppure se tu vedi su Star Trek Enterprise, che secondo me è stata una grande serie comunque al di là di svarioni e problematiche, alla fine c'era il pulsante per aprire le porte, se vuoi. Sì, io l'ho amata Enterprise, Lo sono amata anch'io tantissimo, purtroppo fine indegna, devo dire la verità, fine indegna, sì. Però un po' se la sua cercata, perché la storia dei Xin di 11 settembre, sai, tutta una serie di cose, questa lotta verso soliti americani, la vendetta, la cercata vendetta, così poco Star Trek, capito? Però secondo me poi alla fine invece raccontava un momento della storia del Star Trek bellissimo, cioè proprio lì potevi sbizzarrirti veramente, quella era l'ultima frontiera, cioè questa nave che era uno sputo, che non c'era manchi gli scudi, andava in giro, piava le botte da tutti, era bellissimo, quindi non c'erano ancora tante regole, non c'erano tante cose, quindi il primo viaggio, vabbè, comunque non è questo il tema. E poi vabbè, il design, il layout, insomma, di Alfa, degli interni, abbiamo detto insomma che era una cosa ma anche l'esterno, sì, visto da fuori è bello, molto sì, bello, il modellino molto. Era bellissimo, ma te l'ho detto, erano gli stessi che hanno curato 2001 e tanti altri film di fantascienza, ma tra l'altro era fatto rispetto se ci pensate a Shadow, che era stato il precursore, sì, eccetera eccetera, UFO, da un punto sì, UFO altro capolavoro, sì, bellissimo, però se tu vai a vedere UFO era estremamente più kitsch, molto sì, molto più kitsch, molto di più, sì, e con delle cose che non avevano senso, cioè perché le donne sulla base luna dovevano avere la parrucca viola? No, non avevano la parrucca viola, era un caso, erano viola perché loro erano nate sulla luna. Sì, vabbè, però non so come dire. Scusa, se tu nascevi sulla luna, ti venivano i capelli viola, basta. Cioè, è così. Perché la stessa attrice sulla Terra diventava bionda? Perché era sulla Terra, esatto. Ma che tu, Claudia, scusa, Claudia, però mi caschi su queste cose. Cioè, Claudia, tu sei nata sulla luna e c'hai i capelli rosa. Viola, no, scusa, è vero. Non blu una volta, no, blu, blu, blu, blu, esatto. Blu, però adesso li farò viola. Viola, okay. No, ma Allora, io ti invidio, la mia figlia c'è via rosa. Io posso dire che ti invidio tantissimo, Claudia. Non so se te lo dico, lo sai, te l'ho già detto l'ultima volta che ci siamo visti. Io ti invidio tantissimo, mi piacerebbe tantissimo avere i capelli blu, ma non ho neanche i capelli, quindi c'è, cioè, proprio difficile. Infatti, stavo dicendo qua i capelli. No, no, ma io lo sto dicendo sul serio. Cioè, io oggi colorati i peli del petto. Io oggi a 50 anni, se avessi i capelli, me li farei blu. Cioè, proprio. Ma puoi farti la barba blu. Hai ragione, hai ragione. Infatti, ci stavo riflettendo su sta cosa, lo stavo a dire l'altro giorno al barbiere. Ho detto: ma se io mi faccio crescere qui. Vabbè, dai, comunque non è questo. Perché no? Ma però adesso, a parte gli scherzi, dal punto di vista dell'immagine, dello stile, eccetera, eccetera, secondo me su Spazio 1999 hanno fatto un grandioso passo in avanti. Davvero, con una visione futuristica molto più realistica. Sì, anche le movenze nello spazio fuori, nell'esterna, quando le persone si muovono in un ambiente privo, sì, di gravità, si muovono bene. E sai come hanno fatto a farlo quello? Sì, con lo slow motion. Sì. Più o meno. No, sì, non proprio con slow motion. Sì, beh, hanno ripreso con una telecamera più fotogrammi al secondo. Esatto. E quindi poi dopo veniva, quando veniva fatto il playback ai 25 fotogrammi, lo riprendevano a 40 e poi lo rifacevano al play a 25, quindi anche se io credo che Spazio 1999 sia girato in pellicola, quindi non ai 25 ma ai 24, non so, poi se allora, 24 andava a 48, insomma andava okay, un altro più della velocità, ma anche le aquile che volavano, tutte le cose, insomma, riguardanti lo spazio erano, io per quello che ho visto ci credevo, ma buono considerando l'età. Ci credevi perché, scusa, non so, vere le aquile? Sì, no, erano vere, certo, poi tra l'altro spuntavano come funghi, esatto, bravo, quindi non stai buono, per cortesia. No, allora ragazzi, fatto sì, bene, meglio di Star Trek, devo dire, in alcune occasioni. Era 10 anni dopo, era dopo, sì, esatto, era 10 anni dopo, comunque sì, anche le tecniche, se vai a vedere, comunque tutto vedi. Una domanda finale che qualcuno sa, ma i budget tra Star Trek e Spazio 1999 erano paragonabili? No, erano minori quelli di Spazio 1999, esatto. Star Trek di più. E nella seconda serie, tra l'altro, glieli diminuirono ulteriormente, che fu il motivo del cambio della sala comando. Che nonostante che sono entrati gli americani, alla fine. No, in realtà avevano gli americani, il compito degli americani di Sarge Herbert, scusate, non lo so pronunciare, che era lo stesso produttore di Star Trek, era di far salire gli ascolti, ma con metà del budget. Quindi, miracolo. Quindi cosa facciamo? Puntiamo su la gnocca, americanizzazione dei personaggi con l'introduzione di Tony Verdeschi, eliminazione del personaggio intellettuale, il professor Victor Bergman, e Kano, il tecnico dei computer, che comunque era stato un personaggio importante, era la ragazza, era il tecnico del computer. E infatti la seconda stagione fa cagare. Esatto. E introducendo anche, per esempio, nell'episodio della Mil Bonita, il personaggio del cowboy americano. Sì, esatto. Tutta una serie di cose che prima non c'erano. E budget molto più bassi, per cui sulle scenografie si sono ridimensionati tantissimo. Hanno costruito questa base comando che era un quarto. E mi ricordo che appunto nei libri avevano giustificato col fatto, se non ricordo male, che la base, l'altra, che era sopra la superficie, era troppo esposta e quindi avevano usato questa base che già esisteva ma che prima non era usata. E ragazzari, la Roma gli avrebbe ragazzari. Che gli costava molto meno fare tutto. Certo. Girare le scene. Va bene, ragazzi, siccome gli argomenti ancora ce ne sarebbero tanti, ma purtroppo siamo andati un po' in là con i tempi, io vi faccio sentire una cosa, così un attimo ci ragioniamo sopra. Ok. C'è un blackout Vieni, uomo, vieni avanti, uomo, vieni, uomo, vieni. E vabbè, vieni avanti, uomo, diceva il tizio. Vieni avanti, vieni uomo. Avanti, uomo. Ah, che bella. La voce. Bellissima. Che io non dico niente. A te fa schifo, lo so già. Vabbè, mamma mia, l'ho sentita stasera. Vabbè, ma la tu devi sempre considerare che tu sei un uomo senza anima e senza cuore. Quindi se la senti musicalmente, veramente questa è veramente una di quelle canzoni che ha detto: oh, qua dobbiamo fare una canzone per un trasmissione, per un film. Senti, come se banda uno dalla in realtà non è così. Non lo so. Comunque gli avranno commissionato di fare questa roba. No, è peggio di come pensi. Non li hanno neanche commissionata. Buono. No, questa canzone è la sigla finale italiana della seconda stagione, neanche della prima, e si chiama SOS Spazio 1999. È stata scritta il testo da Franco Migliacci e Cesare De Natale, che però avevano solo scritto il testo basandosi su una musica vecchia già esistente di Guido Maurizio De Angelis, cioè degli Oliver Onions. Ma la musica degli Oliver Onions non è stata fatta per questa sigla, era una musica che già avevano fatto e addirittura avevano già riciclato più volte, perché questa musica, che per te è orribile, in realtà era una canzone che si chiamava Miss Robot, che era già stata utilizzata da Guido Maurizio De Angelis in due film di Bud Spencer e Terence Hill, cioè in Pari e Dispari e in Lo chiamavano Bulldozer, cioè era già stata riciclata con un altro testo. Sì. Pazzesco. Noi non sentiamo niente, Sì, infatti. Alla radio sento. Allora, non la sentite? Strano. Vabbè, comunque. Era già stata creata con un testo in inglese, sì, e utilizzata in due film. Ma hai ragione, adesso che mi fermi, Bud Spencer, che parlavano in inglese. Esatto. Cosa hanno fatto questi Migliacci di Natale? Hanno detto: oh, guarda, prendiamo questa musica qua, ci scriviamo il testo in italiano e tac, la sigla finale di SOS Spazio 1999. Che così bella, come possiamo utilizzare? Però il 45 giri raggiunse la 29esima posizione dei singoli più venduti del 1976. E uno ce l'hai tu. Sicuramente. Esatto. Vabbè, diciamo non una cosa. Butta via niente. Diciamo una cosa. Allora, sì, no, voglio fare una precisazione qua, perché chi mi conosce sa quanto io ami, ma proprio per una questione affettiva, gli Oliver Onion, ma proprio per una questione affettiva proprio mia personale. Però è vero anche, e qui bisogna riconoscerlo, che gli Oliver Onion in quegli anni hanno fatto centinaia di sigle, centinaia di canzoni e centinaia di colonne sonore, il che non può che significare che molta roba era fatta in catena di montaggio e tante cose sono state riciclate, come il Galaxy Express 999, se vai a vedere comunque alla fine la stessa canzone di Bulldozer, adesso non ricordo quale dei film, sempre di Bud Spencer, la canzone è esattamente la stessa anche in quel caso, perché molte cose loro le hanno riciclate in varie situazioni, insomma, per esempio sul cartone animato, già adesso è un cartone animato, sti cazzi buttaci questa, no? Hanno solo cambiato il testo fondamentalmente. Sì, perché poi la sigla finale, che non so quanti poi magari stavano lì anche ad ascoltare, tra virgolette, magari era proprio, magari c'era più l'abitudine di ascoltarla, però magari era la cosa più bella della seconda stagione. Vabbè, io non so così drastico, è vero che a me la seconda stagione non è piaciuto, però è vero pure che secondo me la seconda stagione merita di essere vista solo per Maya, ma non per Maya perché è bella o brutta, ma proprio perché è un personaggio veramente affascinante, veramente incredibile, cioè poi ragazzi, cioè, era una mutaforme, cioè sì, è vero. Geniale. No, il personaggio in sé era affascinante e comunque le hanno dato anche un certo carisma, un'intelligenza molto acuta, perché comunque lei aveva un cervello come un computer. Ci sono delle puntate in cui non funzionava il computer e il computer lo faceva Maya, eh. Beh, che ce vuoi, basta dare risposte a caso, esatto. Su fogliette di carta, in effetti non è difficilissimo. Vabbè, questo è come in Star Trek, la moglie di Roddenberry, che praticamente ha fatto di tutto, insomma, cioè, nel senso, sì, qualsiasi cosa ogni tanto la cicciava fuori in qualsiasi forma, in qualsiasi condizione. Va buono, ragazzi, io intanto vi ringrazio, insomma, perché posso dire solo una curiosità finale, se c'è tempo, se no non la dico. Veloce perché si riaggancia questa curiosità alla puntata di, alla live di ieri di Archeologia Informatica, che parlava del collezionismo. Sì. Perché c'è una cosa divertente sull'edizione italiana di Spazio 1999, perché l'ultimo tramonto, l'episodio, fu trasmesso una sola volta in Rai nell'estate del 1976, no? L'unica copia che c'era in italiano della Rai, con la traduzione in italiano, con il doppiaggio in italiano, andò perduta. Infatti, quando poi fecero l'edizione DVD della serie, recuperarono la pista audio in italiano da un telespettatore che aveva, sì, all'epoca per caso registrato la puntata su un registratore a nastro, solo la voce, praticamente mettendolo attaccato alla TV. Sai che questa cosa è successa in tante altre occasioni, comunque. Sì, ma non è finita, perché alla fine ne mancava anche un pezzettino. Infatti l'edizione in DVD uscì con questo audio che si sentiva male, e in più che mancava anche la parte iniziale, che misero il doppiaggio originale con i sottotitoli. Ma poi cosa successe? Che dopo un po' di anni ritrovarono una copia in 16 mm dell'episodio, ma che per una serie con il doppiaggio integrale, ma per una serie di non si sa come, a un certo punto l'istituto di doppiaggio disse: accidentalmente l'abbiamo venduta a un collezionista con altri reperti della serie, ok? Accidentalmente. Però non è finita male, perché il collezionista, leggendo poi sul blog, perché siamo già nel 2008-2009, quindi anni recenti, legge sul blog che si sono persi questo doppiaggio originale. Allora lui stesso, che era il collezionista che l'aveva comprato, dice: no, ma ce l'ho io, ve la ridò e facciamola. E quindi finalmente nel 2009 viene ricostruita finalmente l'episodio Ultimo Tramonto con il doppiaggio italiano completo, che si sente bene, integrale, totalmente restaurato, eccetera. Questo era per dire che ieri nella puntata di Archeologia Informatica abbiamo parlato del collezionismo nel nostro caso dell'informatica, ma in generale molte volte il fatto di avere collezionisti che raccolgono memorabilia, cose eccetera, li conservano, ha delle cose positive, certo, tra cui anche, certo, la preservazione e il recupero, perché questa stessa identica cosa per esempio è successa anche per il Dottor Who in Inghilterra. Sì, che la BBC si era persi i nastri, no? Si erano persi i nastri, erano ritrovati dai collezionisti, eccetera. Ma non se li sono persi, ci hanno inciso sopra. Ci hanno registrato sopra, è vero, sì. Ci ha registrato sopra dell'altra roba, cioè, vabbè, tanto non li rivedremo mai più. Vabbè, comunque questo piccolo inciso, se volete recuperate la live di ieri su come qualcuno di... Marco diceva che in TV le scenografie le buttavano via subito dopo aver finito le riprese, o recuperavano i materiali per fare dell'altra Roma. Sì, è verissimo. Sì, vabbè, infatti l'ha detto Claudia prima, però poi in realtà gli americani questa cosa non l'avrebbero mai fatta, diciamoci la verità, insomma. Però questa, noi avevamo tipo un'altra cultura. In realtà in Italia, per esempio, con i grandi studi di Cinecittà, se voi ci fate caso, tantissime volte venivano costruite le grandi scenografie, venivano riciclate per X numero di film, poi, cioè, ovviamente senza mostrarle, certo, esplicitamente, però comunque come faceva economia di scala, dai, su, era pure normale, insomma, no? Cioè, tu considera è che è sempre un business, la scenografia dei Gangs of New York sono state utilizzate per tantissima altra roba, cioè, insomma, quindi io l'ho pure visto. Comunque, detto questo, ragazzi, vi ricordo che prima di salutare i nostri ospiti, questo è il grande weekend di Runtime Radio. Domani mattina alle 7 vi do la sveglia io con Buongiorno un cazzo, e domani sera vi diamo una buonanotte alle 20. 2023 con Runtime by Night parleremo di donne, tecnologia, informatica, videogiochi, tutto messo insieme. Quindi chi vuole partecipare domani sera, Skype è aperto, quindi potete tranquillamente venire a questo che insomma è il nostro talk show della notte, del venerdì notte di Runtime Radio. E sabato mattina vi diamo ancora una volta la sveglia alle 8:30 con Michela, io e Michela, con Disordinati Informati, parleremo tutte le notizie della settimana e poi inizierà insomma tutto il resto della programmazione di Runtime. Invece, come ha detto Carlo, se volete domani andatevi a recuperare, no, se domani, non c'entra niente domani, se volete andatevi a recuperare live di ieri sera sul canale YouTube di Archeologia Informatica, una live veramente molto interessante che ha riscosso grande successo, oppure andate sul canale di Davide Gatti Survival Hacking e diventate il 23.457esimo iscritto, mettete like, abbonatevi, fate tutto, condividete, attivate la campanella, pure su Archeologia Informatica. Detto questo, io ringrazio e saluto Davide Gatti. Beh, buonasera a tutti, grazie di essere stati qua con noi e di aver passato, trascorso con noi un po' di tempo nello spazio, sulla Luna, e ora ce ne andiamo a letto sognandocela. Carlo Sant'Agostino. Grazie, buonasera a tutti, grazie Pixel Prog, nuovo ascoltatore nei commenti che ci fa i complimenti, grazie per i complimenti, fatene tante, ne abbiamo fatte già tante, quindi puoi recuperare le scorse stagioni se vuoi del podcast che trovi su Spreaker e su tutti i principali aggregatori, quindi ne hai un bel po' da ascoltare. Se hai pazienza, sentito, tra poco ti linko il feed dove puoi andare a scaricarti le puntate della 3 stagioni, questa è la 3ª stagione, esatto. E ringrazio e saluto ovviamente Claudia Maravalle. Ciao Claudia. Ciao Simone, ciao a tutti, è stato veramente un piacere essere qui, come tutte le volte che partecipo mi sono veramente molto divertito. Mi fa piacere, sì. Questo mi fa piacere. Ci rivediamo nel 2023 con te per la puntata già annunciata dedicata a Doctor Who, che sì, anche se non è facilmente collocabile in quando era un futuro perché va un po' oltre. Però lui è un viaggiatore del tempo. Esatto, bravo. Lui è stato futuro, passato. Esatto, esatto. Forever. Bravissimo, infatti stavo girando più o meno una cosa simile. E ragazzi, se vi capita, andate su runtimeradio.it, c'è il pulsante Anch'io, e lì trovate la possibilità di contribuire, dare un supporto a quello che è il progetto di Runtime Radio tramite Patreon con una donazione ricorrente o tramite PayPal, con una donazione una tantum. Se contribuite, non è una cosa ovviamente obbligatoria, non fa niente, quello che volete, ma se lo fate ricordatevi insomma che date una mano a un progetto che si gestisce ed autogestisce oramai da tanti anni e insomma con il sacrificio di tutti quanti e la buona volontà, insomma, quindi ascoltare gratis, dare una mano non fa mai male, insomma, se volete, comunque non c'è problema. Ciao e buonanotte a tutti. Buonanotte.